come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci son volpi di quelli stufanti di la mille topi, tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Ma non ti sento questa sera, David? Ma dove sei? Dove sei che ti sento male? Dove sei? Amico mio, sto lottando come un leone, sto chiudendo un pezzo per questa sera per andare al 12, amico mio. Al 12 che? Parla italiano, al 12 cosa? Ma c'è gente che non gliene frega niente di queste cose, lo share, i programmi. Ma questo non esiste etica, esiste solo in TV, funziona o non funziona, non è che c'è giusto, sbagliato, etica, morale. Ma signor Stracquadani, io ho conosciuto il signor Parenzo come una persona abbastanza seria, si è ridotto a cantare alla radio chi co co co cu cu cu. Io mi stupisco che lei l'abbia conosciuto come una persona abbastanza seria. Si vede che quel giorno era un po', come dire, stava riposando. E dice si stupisce della prima parte del fatto che io l'abbia conosciuto come una persona seria. Vabbè, insomma, può darsi. Giorgio Stracquadani, il primo ospite della serata. Buonasera. Frondisti. Saluto entrambi. Sì. Nonostante le piccole, come dire, punture di spillo. Frondisti, vogliamo fare così, Parenzo? Frondisti. Però non avete beccato niente, Stracquadani. Alla fine di tutto, sì, certo, il contributo di solidarietà, per carità, chiamasi rapina, che era una rapina, è stato tolto. Però qui c'è una confusione pazzesca, Stracquadani, diciamo la verità, c'è una confusione enorme, proposte che cambiano da un momento all'altro, adesso pare che ci sia una cosa definitiva. I soldi, però, per togliere il contributo di solidarietà, che io chiamavo semplicemente rapina, però dice l'evasione fiscale, ma come si fa a prevedere quanto si incassa dall'evasione fiscale? Comunque, ne parliamo tra... Aspettiamo su questo, no? Aspettiamo. Perché abbiamo avuto l'annuncio. Perché aspettiamo che, siccome esistono un ottimo servizio studi del bilancio del Senato, che esamina l'impatto degli emendamenti sulla finanza pubblica, sì, in modo, direi, efficace, gli emendamenti sono stati ancora annunciati, sì, quindi aspettiamo di vedere che nelle prossime ore, penso già domani mattina, cioè il senatore Azzolini, il senatore Azzolini ci presenterà tutto, insomma, il relatore, avremo qualcosa di più dettagliato, cifre o altro, ma io non vorrei fare, come dire, una puntata ragionieristica. No, per carità, però le faccio sentire il relatore della... nemmeno noi vogliamo farla, il relatore alla manovra, il senatore Azzolini, in una delle sue più recenti performance. Le pensioni? Mo sto stato a lavorare io, guarda, io qui sto lavorando. Se saltano le pensioni, come le compensi? Non lo so, se salta, diciamo, è la stessa cosa che se adesso facesse il temporale per me. Stiamo a lavorare... È una cosa pazzesca. Qui ho scoperto, Parenzo, che il signor Azzolini, è anche sindaco di Molfetta. È anche sindaco di Molfetta. Dunque, è sindaco di Molfetta, presidente di commissione, relatore, eccetera, senatore. È senatore, ed è anche un uomo dalle molteplici capacità. E tra l'altro è anche uno di quelli che deve presentare gli emendamenti sulle incompatibilità. Cioè tra i sindaci, cioè, è la stessa persona che deve presentare gli emendamenti. È un po' come mettere un gatto a guardia di un ristorante del pesce, capito? Dici, metti un gatto lì? Sì, un attimo solo, le faccio sentire Azzolini a Report, in una delle sue più recenti performance. Perché devi sapere, Parenzo, che nel 2006 era sindaco di Molfetta. A un certo punto si è dimesso nel 2008 perché non poteva candidarsi al Senato. Allora si è dimesso, dunque, lasciando il comune senza sindaco, col commissario, facendolo proprio apposta per candidarsi. Dopodiché è diventato senatore e si è ricandidato a sindaco. Beh, è una cosa fantastica. Ma è un genio assoluto. E il bello è che è stato pure rieletto, perché la gente non... Azzolini, sentiamo questa performance al Report. Quando io mi sono candidato al Senato, non ero più sindaco. perché attenendomi rigorosamente alla legge, si è dimesso. Mi sono dimesso. Il termine che prevede la legge, che certamente. Certamente era ineleggibile. Certamente. Per cui lei cosa ha fatto? Ha lasciato vuoto il comune. Infatti c'è stato il commissario. Il commissario. Cioè lei ha fatto arrivare il commissario per potersi candidare. No, ho fatto arrivare io. Certo, se un sindaco si dimette, lei sa però. Ma che lei si è dimesso per candidarsi, diciamo. Mi sono dimesso, è certo. Poi per candidarsi al Senato. Certamente. E ha fatto arrivare il commissario, sì. Di conseguenza. Non io l'ho fatto arrivare, il prefetto ha nominato un commissario per 40 giorni. Ma questo è un genio, no, dimmi la verità. Grandissimo. È un grandissimo questo qua. Ma non è che l'ho fatto arrivare io. Non è che l'ho fatto arrivare io. La legge. Non la l'ho legge. Fatto arrivare io. L'ha nominato il prefetto. E beh, certo che l'ha nominato il prefetto, ma sei tu che ti sei dimesso apposta per candidarti e dopo ti sei ricandidato a sindaco, perché se uno è senatore si può candidare a sindaco. Se uno. No, aspetta, mi sono confuso. Sì, se uno è sindaco non può candidarsi al Senato. Io questo qua lo voglio leggere a genio del giorno. Senatore Azzolini, genio assoluto del giorno. Però c'è anche Massimo Fini, ti voglio far ascoltare, giornalista Massimo Fini. Beh, è un grande giornalista politico. Aspetta, dopo quello che ha detto. No, non sono d'accordo mai su nulla, su quello che dice il signor allora, Massimo Fini. Hitler è l'unico dittatore coerente. Senti, no. Hitler è l'unico dittatore coerente. È impazzito anche Massimo Fini, sentiamo. C'è una cosa da dire su questi dittatori. Al momento del dunque tutti dimostrano una vigliaccheria assoluta. Beh, l'unico che è stato coerente è stato Hitler, che si è suicidato. Attenti al matto! Ecco, appunto, attenti al matto. Ah, beh, ho capito perché. Sì, beh, ho capito, sì, d'accordo. Ma nel senso che è l'unico che si è ucciso, no? Ho bunker, capito, Rico, ma insomma, Brown, capito, non, no. È, non è che sia un atto di eroismo come lo fa passare no, lui. Non è di eroismo, di coerenza. Ma perché, comunque, sai, l'ottimo Massimo Fine è stato di vabbè, un'ultima cosa Marco. Prima di. Andiamo allo 0%, qui lo sai, no? No, appunto, ecco, stai zitto. prima di parlare ancora con Stacquadanio, c'è un signore della Confesercenti che oggi si è presentato a Monza perché doveva essere il giorno dell'apertura dei famosi uffici ministeriali della Lega, no? A Monza, questa buffonata sesquipedale che hanno fatto passare per apertura di uffici dei dicasteri di Calderoli, di Tremonti. Chi ha detto buffonata? Chi è quel coglione che ha detto buffonata? Chi è quel coglione? Sono Cruciani. Cruciani un romano, un coglione, per dargli delle iatte. Io ero lì in ufficio a Monza oggi, ho parlato con i Gonzaga che stanno a Mantova, con gli Sforza, i signori di Milano. Ero a Monza io. Ma come era a Monza? Non c'era nessuno a Monza. Ero a Monza, ho parlato con i Gonzaga, ci siamo confrontati con i Gonzaga. Signori di Mantova, i Gonzaga. Ma che c'entro i Gonzaga? C'erano i Gonzaga, c'erano, non sai niente, sei un cretino, prende la legnata, la radio. E Radio Padaria, questa è Radio Padaria. E Radio 24. Vabbè, sapete solo chi è il soldi voi, Radio 24. Ma fa culo, stroto. Ok, questo è diventato Bossi. Che dobbiamo fare? Signor Zirio, sentiamo il signor Zirio. Io ho trovato un ufficio con due scrivanie, con due bandiere, scritto ministeri vari, insomma, e ho trovato due fotografie di Napolitano, uno di Bossi, un quadro con il giuramento di Pontida e Giussano in una statuetta in bronzo. Col massimo rispetto per tutti, però così non va. Ma ti rendi conto o no? Vabbè, è questo. È una cosa pazzesca. È andato lì a bussare, ma anche questo qui che ci crede, capisci? Perché in verità è tutto uno scherzo. È andato lì a bussare, ha trovato la strada delle cose. È una scenografia, è come la scenografia. Scusi, Stacquadanio, ma che è diventata questa Lega? Me lo dica lei, che cosa è diventata? È peggio della CGIL, sono con i sindacati, come i sindacati sulle pensioni, proteggono potentati locali, non vogliono nessun tipo di liberalizzazione, non vogliono togliere le province. Che è diventata sta Lega? Ma io ho conosciuto la Lega a partire dagli anni 90, quando era il partito antitasse per eccellenza, che era proprio colto in quello la grande contraddizione del paese. E c'è il mitico manifesto della gallina e delle uova d'oro, no? Sì. Che erano i ceti produttivi che venivano sfruttati dallo Stato. E purtroppo in tutti questi anni, diciamo, a frequentare lo Stato hanno imparato a imitarlo. Hanno imparato a imitarlo e a traslarlo nelle istituzioni locali e nella gestione del potere amministrativo. Cioè meglio il PD della Lega? No, è una gara. è una gara non nobile, ma una gara. Una gara tra chi? Tra statalisti? Tra l'occupazione del potere locale e il tentativo di occupazione anche del potere centrale, ma non nel senso dell'esercizio del potere democratico, cosa che in democrazia va fatta. Chiunque vinca le elezioni deve esercitare il potere che gli conferisce il sistema di regole della. Sì, però lei mi è troppo diplomatico su sta Lega. Dico una cosa. No, diplomatico. Ieri ho detto che al confronto il PSD erano ultraliberisti, non mi pare di essere così diplomatico. Cioè, peggio del PSD. Ho detto al confronto il PSD era ultraliberista, perché loro oggi difendono le province, ma difendono anche tutti questi enti intermedi tra le province e i comuni, difendono le burocrazie comunali, difendono le municipalizzate che dovrebbero rimanere tali, Le pensioni, l'età pensionabile. E fin qui siamo sul versante come costo della pubblica amministrazione e peso della pubblica amministrazione. Poi difendono una cosa che non sta in piedi, le pensioni di anzianità. E tra l'altro bisogna. C'è armonia però nella maggioranza, devo dire. C'è una bella armonia, un bel clima. Bravi, dobbiamo dire un po' di chiarezza. Se siamo d'accordo non andiamo bene, se discutiamo non andiamo bene. No, ma perché? Io non è che devo dire, io faccio un'analisi politica, mi pare che una fotografia. No, c'è armonia nella maggioranza. Fa delle imitazioni fantastiche, fa delle imitazioni fantastiche, non vedo l'ora che hai imiti. Non è facile imitare Straquadrano. No, è difficile, la voce è difficile. Lo so. Detto questo, per esempio, pensioni di anzianità, dobbiamo dire una cosa chiara, dobbiamo dirla, diciamone una. Noi non siamo, quando si parla di pensioni, di cambiare le pensioni, tutti finiscono per pensare che noi tocchiamo le situazioni dei pensionati. Ma no, ma questo l'abbiamo detto, in realtà No, io dico, questo è il gioco che viene fatto, spesso nella propaganda. Tagliare le pensioni, toccare le pensioni. Il sistema previdenziale, toccare le pensioni. Non si tocca mai un centesimo, semplicemente... Non si deve toccare un centesimo, perché questo è ormai stabilito da un patto che non si può più modificare. Senta, però, anche insomma, per esempio, avete fatti scandalosi, tipo le pensioni baby, quelle da 14 mesi in un giorno, non si possono più toccare, quelle certo. da 9 miliardi all'anno, come bene Mario Giordano. Straquadagno, diciamo la verità, qui alla fine voi avete fatto i frondisti, perché tutto quello che volete, però che avete... abbiamo appena iniziato, ma che avete ottenuto? No, ma va benissimo, abbiamo per carità. La rapina, e abbiamo abbattuto la rapina. Se non ci fosse stata la nostra iniziativa dall'11 di agosto in poi, nessuno avrebbe discusso di questo, se sarebbe rimasto, come dire, una sorta di macchia sul governo. Beh, ma fino all'ultimo Tremonti ha cercato di metterla dentro, esattamente. Ma come mai? Però, come mai è così fissato? Ma Tremonti è uno che voleva rapinare gli italiani. Guardi, io ho conosciuto Tremonti, ministro che con i suoi libri ci ha insegnato che dovevamo ridurre le tasse per affamare la bestia, il Tremonti di oggi, il peso dello Stato, le 100 tasse degli italiani, anche il federalismo fiscale, un 94 molto bello, e invece? Dove c'è scritto che le province sono tutte da abolire perché sono un ente inutile. E invece oggi? Però progressivamente Tremonti ha spostato il suo baricentro dall'essere un bravo lettore italiana a tentare una sorta di leadership tecnocratica. E le leadership tecnocratiche hanno un difetto, che devono creare intorno a sé una grande aura di competenze e di conoscenza, e quindi costringono, come dire, a invenzioni intellettuali, riconoscimenti europei, e poi affidano però alla burocrazia ministeriale il compito di gestire la politica economica reale. Ma oggi che è diventato Tremonti? È uscito vincitore oppure sconfitto da questa partita? Alla fine Tremonti ha dovuto accettare una cosa che non aveva mai accettato. Cioè? L'idea che si va in Consiglio dei Ministri con la carta letta vuota e dopo 15 giorni c'è la fiducia. Ecco, ha dovuto quindi fregato Tremonti. Il fatto che un partito che ha ripreso un po' di vitalità, anche penso grazie ai cosiddetti frondisti, e ha iniziato una discussione approfondita, ma si può andare avanti con Bossi che dice stronzo a Casini, che dice quello è un nano di Venezia, un nano di merda, o quello che è, che vuole toccare le pensioni. Se vogliamo parlare della crisi della Lega, è una crisi profonda nell'impianto, come ho detto prima, vabbè, d'accordo. Ed ha una difficilissima situazione, perché diciamo, siamo sinceri su Bossi, sulla leadership. È la successione a questa leadership che ovviamente, come dire, si scrive sempre di più nella storia e sempre meno nell'attualità, la leadership di Bossi, che però sta dicendo Stragualagna. L'ho già detto un'altra volta. Sì, sì, no, però voglio dire, Bossi, quando Bossi, cioè ormai Bossi è solamente questa roba qua, quella che abbiamo ascoltato prima in quel magnifico collegamento. Sì, ma infatti, ma guardi che il problema più grosso se lo pongono alla Lega. Ma diciamo la verità, è sopportabile un leader che è in queste condizioni? Come? Un partito, un paese può sopportare un leader che è in queste condizioni? Ma guardi, il punto chiave è questo, che siccome possono capitare situazioni transitorie, questa è una situazione transitoria di un partito... Cioè non è tipo il leader del... sembra il leader del... si ricorda del partito comunista, Unione Sovietica, che alla fine era quasi, no? Quasi lì alla fine dei suoi giorni, però contava ancora con movimenti strani... Stiamo assistendo a una Bossi, a chi lo paragonerebbe a Bossi in questo momento? Ma guardi, io non vedo un paragone, io vedo... Mi faccia un paragone storico, che ne so? Il Brezhnev della Lega. Il Brezhnev della Lega, l'Andropov no, della Lega. No, non lo vedo, perché questi sono paragoni con uomini di forte insediamento di potere. Bossi in fondo in tutta la sua vita... Un po' di potere. Se ne ha gestito meno di quanto non si immagini. Perché si porta dietro il figlio ai vertici? Ma perché io penso che... Che fa? Che ruolo ha, secondo lei? Io penso che... Cioè, consigliere o badante? Più consigliere o più badante? Il figlio? Io credo che Bossi voglia lanciare il figlio nell'arena politica in un tempo, come dire, un po' più lungo, e debba cercare qualcuno che nel passaggio di mano, di consegne, che avverranno naturalmente come avviene in tutti i partiti, possa essere sulla linea della, di cedere il rossetto a suo figlio. È involutissimo. Se lei lo guarda sul piano della diplomatico Stragualagna. È involuto stasera, involutissimo. Traffico. Cristiano è diventato. Traffico. Eccoci, 800 24 00 24. Io ho ancora in testa questo Azzolini, che è un genio assoluto, uno che si dimette nel 2006, è sindaco, si dimette e lascia il comune commissariato. Però Cruciani, bisognerebbe capire come mai ci sono questi meccanismi, lei lo ma sa? Sì, ma c'è come mai allora, ci sono. C'è una storia che era legata al vecchio sistema elettorale che oggi non ha più ragione d'essere. Vabbè, ho capito, ma insomma, va benissimo, per carità, ma ci sono tutti i motivi del mondo, però insomma... E d'altra parte, c'è sempre una ragione a tutto. Quattro cariche, tre cariche sono consustanziali, cioè se uno è presidente di commissione e su una cosa importante si assegna la relazione, la cosa normale, una situazione di responsabilità, e per essere presidente bisogna essere eletto in quel ramo del Parlamento, fine, quindi quello è un incarico solo. Ma le pare normale che sia il relatore, uno del genere sia il relatore della manovra, deve decidere anche sulle... decidere no, perché chiaramente non conta nulla, certo, no, per carità, però comunque... Allora basta, e allora è finita la chiacchiera, perché io sarò involuto, ma voi cercate sempre un po' di spettacolarizzazione e oggi non riuscirete a tenere da me una parola gridata, perché io sono... Ma noi non vogliamo ottenere per forza parole gridate. Vogliamo solo le solite stronzate. Solo un po' stanco. Non ho sentito, perché grazie a Dio c'era un'interferenza, di una voce graffiante. Sono sempre molto contento di parlare, gli ascoltatori sono contento di stare nel suo programma. Però sto pensando che c'è un momento per scherzare e un momento per essere seri. Questo per me è un momento per essere seri, perché che è successo, a un momento difficile. Ho capito. E se andiamo avanti così, sa cosa succede in questo paese? Ma non siamo noi a dover essere seri, siete voi dovete essere seri. Ma lo dica a chi governa la maggioranza. No, a noi. Non è il problema della maggioranza, terza poco la maggioranza. Ma ho capito, ma qui cambia la manovra ogni 3 secondi. Ogni giorno ognuno di voi dice una cosa diversa, e questo è il punto. Cioè il punto è questo. Adesso scattano le manette per gli evasori, improvvisamente elenchi pubblici di tutti i contribuenti italiani. Lo sa, lei si ricorda quando Visco propose una cosa del genere, voi ve lo siete mangiato. È vero? Lo Stato spione avete detto. Cosa? Ma io sono d'accordo, va benissimo questa quando Visco propose una cosa del genere, voi ve lo siete mangiato. Non l'ha proposta una cosa del genere Visco. Come no? Perché gli elenchi sono già pubblici, se uno all'agenzia delle entrate può chiedere. Insomma, lei è d'accordo o no? È d'accordo o no? Ha proposto una cosa inutile, certo, allora. Le abbiamo messe, le licenze vanno online, certo che sono d'accordo. Allora avete proposto una cosa inutile se c'è già? No. abbiamo semplicemente adeguato la tecnologia. Come? Non è quello. Ma date la possibilità ai sindaci, date la possibilità ai sindaci di pubblicare questa roba qui, di rendere pubblica questo. Nel nostro programma dal 2006. Bah, siccome no, un aumentato ruolo degli enti locali nell'accertamento delle imposte. Ma non è l'accertamento, qui è una cosa diversa, è un'altra cosa. L'altra cosa è quella che i sindaci hanno la possibilità e saranno anche premiati nel caso in cui contribuiscono, eccetera, a rendere, a fare il famoso elenco, non so attraverso quale metodo. L'idea che è alla base di tutto questo si chiama delazione. Non ho capito nulla. Vabbè, non ho capito. Ma infatti, se non ho capito, è anche colpa vostra che non fate capire, non è solo colpa nostra. Ma lei mi dà lo spazio per spiegargliela e non mi contrasta quando io glielo spiego, perché sennò vuole dire che lei insiste nella sua non comprensione. Ma non è chiaro nemmeno a lei, perché non lo sa nemmeno lei, ancora essendo una cosa. È chiarissimo. Se non lo cambiano mentre parliamo. Domani le mando una mail, così lo capisce meglio, perché non me lo fa dire, quindi è inutile parlarne. No, perché magari lo cambiano mentre stiamo parlando, capito? No, non cambia mentre stiamo parlando. Ma come non cambia? Può essere. Ed è dal 2006 che è così. Ma non è una cosa nuova che avete proposto adesso? Come fa a essere la stessa dal 2006? Allora avete riproposto la stessa cosa? È dal 2006 che nel nostro programma. Ah, abbiamo vinto le elezioni nel 2006? Come? Abbiamo vinto le elezioni. No, avete perso. Appunto, per 24.000 voti. Il nuovo condono fiscale. Lei è d'accordo per la possibilità di un nuovo condono? Non ho capito niente. Nuovo condono fiscale. Sarebbe d'accordo a fare un condono? Soltanto nel momento in cui si attua una nuova riforma, cioè il passaggio da un sistema all'altro, è ragionevole e sensato fare un condono. Cioè si dice. Insomma, il condono adesso lo farebbe o no? Diciamo, andiamo su. Cioè, adesso non me la deve. Non mi faccia di Pietro, andiamo sul pratico, perché ad andare sul pratico avete distrutto l'Italia. No, ma come andare sul pratico? Sto dicendo. Il condono non l'ho proposto, per cui di che parliamo? No, ma infatti lei non l'ha proposto, però potrebbe essere d'accordo. Io avrei qualche proposta sull'evasione fiscale, se lei volesse ascoltarmi. No, il contrasto è molto interessante. Bene, io sono. Non ce l'ho, non le interessa. No, vabbè, mi interessa moltissimo la cosa sul contrasto. Perché il contrasto di interessi. Ha finito. Non è il contrasto di interessi? Ma come? È la Zavala o chissà chi lo sa? Chissà chi lo sa è fantastico. Chissà chi lo sa è bellissimo. Di che stiamo? In che programma sono? Sono capitato a chissà chi lo sa. Carro De Benedetti? L'avevo chiamare Febo Conti. No, lo sa che una volta a Omnibus, lo sai Parenzo, quando gli hanno chiesto, lei alla Zanzara ieri ha fatto un'intervista, Stracquadani ha detto, interviste, insomma, per modo di dire, alla Zanzara non è che si fa. No, si scherza. Non si fa una zanzara. Beh sì, infatti, lasciamo perdere. Come lottato e sei adoro. Un'intervista questa qui. Mi sono abbastanza piccato di quella sua frase. Io sono piccato, la porto sempre in palmo di mano come un grande conduttore elettronico e non vada in televisione che viene una schifezza, te lo garantisco. Va bene. Serve qualcuno? Facciamo un Natale tutti e tre insieme. Cioè, non mi può dire che io sono evasivo e mi fa sempre le domande. Ma no, qui. Ma non ho detto che lei è evasivo. Ma anche prima. Ma non ho detto che lei è evasivo. Ma involuto ed evasivo. Ma involuto era per scherzare, allora parliamo seriamente, via. Si spiega nel dettaglio tutta la manovra finanziaria. No, ma sei pazzo, cioè serve qualcuno dice giorno, mese, anno, lo diciamo no. Montezemolo come lo vede in politica? Non ho capito. Montezemolo in politica come lo vede? Io Montezemolo in quanto tale ce lo vedo in politica. Non ce lo vedo. Ho detto in un'intervista che lui potrebbe diventare, se il centrodestra cede il suo spazio, e il PDL in particolare cede il suo spazio di partito, di scambiamento, della trasformazione, dell'abbattimento del peso fiscale dello Stato, cede lo spazio, è ovvio che qualcun altro quello spazio lo può occupare. Non credo che Zemolo abbia, come dire, leadership in questo, ma possa essere un ottimo catalizzatore per creare una rete. Ma qual è il problema di Montezemolo secondo lei principalmente? Perché tutti lo vogliono e poi alla fine nessuno non si decide? Non è che lo vogliono. Allora, la mia impressione è che lui aspetti che ci sia uno spazio, perché allo stato attuale lo spazio è occupato da noi, lo spazio che sembrerebbe impegnare. Io ho visto le proposte di Nicola Rossi e le ho condivise praticamente per il 95%, stanno tutte nei nostri programmi. Il punto è che se noi non le realizziamo, arriva Montezemolo, arriva qualcuno. A me non interessa sia Montezemolo o un altro, perché potrebbe esserci la leadership di qualcun altro, anche qualcuno giovane che non sappiamo, ma arriva un mondo che vuole fare quello che noi abbiamo promesso e che dobbiamo fare. Allora, De Benedetti, all'uscita del direttivo di Confindustria, oggi ha detto: serve qualcuno che abbia la capacità di fare, e questi hanno la capacità di disfare tutti i giorni quello che hanno fatto la mattina. Dice, ma lui paga le tasse in Svizzera, non c'è tanto da discutere con lui. Però che c'entra? Fa attività in Italia. Non dovrebbe partecipare neanche ai convegni della Confindustria, dice? No, per carità, dico che i suoi giudizi sull'Italia mi paiono fuori luogo. Cioè non può dare giudizi, non può dare giudizi sull'Italia uno che paga le tasse in Svizzera? No, ritengo che quello non sia un imprenditore italiano ormai più, e il suo asse di interessi è spostato all'estero. Beh, ha un sacco di interessi anche in Italia. No, Marchionne guida la prima azienda italiana, quindi è diverso, ed è un manager, questo qui è un imprenditore, e sono cose molto diverse, perché Marchionne non possiede la Fiat, la governa, la sta portando in una fase… Cioè, lei si dice De Benedetti non è un imprenditore italiano? Secondo me De Benedetti non ha il polso della situazione della società italiana, non ce l'ha. Non ce l'ha, perché lui ha delocalizzato i suoi interessi imprenditoriali in varie attività, tante non gli sono riuscite in Italia e non è un caso, lo Stato lo ha sin troppo assistito in numerose cose, e anche quando ha avuto iniziative di successo, penso a Omnitel, Prozidia, se non l'avesse venuta gli inglesi di Vodafone non sarebbe andata. Ma hai il gruppo Repubblica, attività nel campo della sanità, un sacco questo di... è lobbying. Come lobbying? Repubblica. Gruppo Repubblica, secondo lei, se lei fa i soldi con il gruppo Repubblica? Beh, li farà anche, se no. Beh, credevamo di sì. No, gruppo Repubblica, tanti giornali non si fanno tanti. Se no, lo Stato. Cioè, lui è, diciamo, lui ha Repubblica solo e semplicemente per fare lobby. Per fare gli affari, per fare gli affari. Certo, ma è legittimo, eh? Come certo. Girone non ha il messaggio il mattino per fare gli affari? Anche io non sono mica un moralista, per carità. Allora Casini dico che il punto di vista di De Benedetti non è il punto di vista di un imprenditore italiano, e quindi queste sue critiche a me non dicono nulla, cioè non aiutano a comprare niente, perché la battuta riconosco lo straguadagno che ho sempre conosciuto così pungente, sprezzante, questa è la battuta, paga le tasse in Svizzera. Devo dare la linea al giornale radio. Siamo qui, 19:16, la Zanzara, 800 24 00 24. Che succede a Monza? Pronto? Sì. Radio Padania, arriva. No, Radio 24. Abbiamo appena passato il conduttore, ti ho messo io lì. Abbiamo fatto, cari amici pagani, federalismo fiscale. Ma è Radio 24 quello? Cos'è? È Radio 24, sono Cruciani, la radio di Confindustria. Cruciani un romano, fa culo, col via, torna a Roma, via. Ma no, abito a Milano da un sacco di anni, signor Bossi. Milano, ci sono gli Sforza, Milano non i Cruciani. Ma a Milano Sforza, ci sono gli signori di Milano, sono gli Sforza, i Brambilla, famiglia che la dama, gli animali da tanti anni, i Brambilla, non i Cruciani. Cruciani, noi proprio... Croce, senti come suona male, Crocia, fa schifo. È venuto a Roma, è venuto su a Milano, c'ha proprio gli immigrati, Crociani. Tutti gli immigrati. Ma non l'ho portato io, non l'ho portato io. Tutti da Roma su, tutti gli Alfano, gli arabi, tutti. Ma come arabi? Alfano è siciliano. È scuro in faccia, Alfano è arabo, dal coglione, è del califano di Alfano. Alfano è arabo, evidente che è arabo. Io sono qua a Monza tutto il giorno nella villa Carolingia, ha ragione, a semplificare. Abbiamo fatto il Senato padano adesso. Ma come? Oltre al Senato normale c'è il Senato padano? Perché sì, bisognerebbe negarsi forte, ci capisci? Abbiamo fatto il Senato padano per semplificare tutto. Allora c'è la Camera, c'è il Senato, c'è il Senato padano. Ma come semplifica? Sono la terza cosa. Ne ho parlato già con Calderoli, d'accordo, che Calderoli, ovviamente, se no prendiamo la legnata, che Calderoli. è libera, Padania è libera, è cristiana. Ma che c'entra adesso? Musulmana mai okay, con l'invasione che sono venuti lì con la Marcegaglia. Ma che c'entra la Marcegaglia? Scusi. Voglio dire la Marcegaglia che è la Confindustria. C'è un ragazzo bravo, 26 anni, bravo. Si chiama Renzo. Bravo. Ma dove lavora questo Renzo? Adesso è in regione Lombardia, però fra un po' finisce tutto, bisognerebbe farlo dirigente della Marcegaglia. Dirigente della Marcegaglia? Ma chi è questo Renzo? Come si chiama di cognome? Si chiama Renzo Bossi, bravo. È suo figlio. Ho capito, ma anche la Marcegaglia avrà un papà, allora dov'è il problema? Siamo tutti figli, di cos'è? Però è del nord, Renzo Bossi. Non è uno che è venuto da Napoli, non è Cruciale che è venuto a Milano a portare via il lavoro a tanti bravi pagati. Renzo Bossi a Radio 24 alla Zanzara, al posto di Cruciale di portare via il lavoro ai pagani Cruciali. Torna per a Roma, nella tua radio di Roma. Sentiamo i titoli del TG30. È impazzito. Legnate. E adesso i titoli del TG3 di Bianca Bellinger. Le bonifiche del governo alla manovra carcere subito con oltre 3 milioni di evasione, redditi online, stop alla supertassa ma non per gli statali. Dubbi sulle entrate, il governo assicura saldi invariati, tempi stretti per esame, il PDL cercheremo di evitare la fiducia, Lupi ospite al TG3. Bersani fanno la faccia feroce contro l'evasione ma preparano nuovi condoni. Casini un baratro se resta Berlusconi fino al 2013. Vertice a Palazzo Chigi con comuni e regioni che giudicano inaccettabili i tagli della manovra e chiedono profonde modifiche in Parlamento. Estorsione ai danni del Premier, in manette l'imprenditore Tarantini e la moglie, richiesta d'arresto per la vitola, attualmente all'estero. Gheddafi minaccia, non ci arrenderemo mai, si bruci il paese, i ribelli prorogano l'ultimatum a Sirte, a Parigi la conferenza internazionale, a Venezia arriva Madonna, fuori concorso con il suo film sull'amore tra Edoardo VIII e Wallis Simpson, anch'io sono una regina senza corona. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Il mitico Mimmo Scilipoti vuole costruire una Tour Eiffel a Messina. No, non ci credo. È l'ultima proposta che viene. Sì, da Mimmo Scilipoti, che vuole trasformare il pilone dell'elettrodotto di Punta Faro a Capo Peloro in provincia di Messina, che è gioiello dell'archeologia industriale, così ci comunica lo stesso Scilipoti, in una sorta di novella Torre Eiffel. Proprio così scrive: la posizione ideale per trasformare in una novella Torre Eiffel. Si trova tra i monti peloritani, vicino ai laghi di Ganzirri e domina lo stretto di Messina. Osserva quindi l'onorevole Scilipoti del MRN, che è, tu lo sai benissimo, Movimento di Responsabilità Nazionale, che vi si dovrebbero creare subito un posto di osservazione naturalistica, paesaggistico, un museo marino e un museo delle elettrotecniche, di conseguenza idonee attività commerciali, eccetera, eccetera. Insomma, una Torre Eiffel di Messina per il rilancio del turismo e dell'economia dell'isola. Non si può commentare tutto. È cosa pazzesca. Signor Giacomo da Roma, è il signore dei rettiliani, il signore di ieri sera, no, in chiusura di trasmissione. No, rettiliani, no. Signor Giacomo? E farò emanare un decreto. Che decreto? Che fa crescere i tagli alle mani, venga fustigato. Che chi scusi? Ammazza dal lavoro sia perseguito come criminale. E chiunque si vanti di guadagnare il proprio pane col sudore della fronte sia dichiarato pazzo pericoloso per la società umana. Questo è George Buchner, sì, la commedia Leon Sellena, scritta, sì, nel 1819. E dunque? Che già prefigurava la società da venire, la società del sol dell'avvenire, cioè la società libera finalmente dal faraone, dai rettiliani, libera finalmente dalla schiavitù del lavoro. Allora, scusi, lei ha avuto, no, per capire, lei ha, cioè l'unico, ha avuto anche dei disturbi in famiglia in precedenza? Sì, dovessi dire la verità, sì. Allora, io le voglio dire una cosa, le voglio dire una cosa. I rettiliani, la società dei rettiliani è basata su questo paradigma, il tempo e denaro. Sì. In realtà, per cambiare, per un'autentica rivoluzione antropologica, non è mai necessario cambiare la struttura di vertice della società, ma è necessario, come scrive Giorgio Agamben nel suo libro Infanzia e Storia, cambiare la percezione del tempo. Allora, passare dalla percezione del tempo come denaro al tempo e arte. Tempo, il tempo e arte. È libertà d'autoespressione dell'essere umano. Però adesso, signor Giacomo, però, prima di arrivare al picco proprio più basso di ascolto della zanzara, volevo il principale rettiliano in Italia chi è? Guardi, io voglio dire una cosa. Allora, ieri lei è un grande intervistatore e le riconosco questa grande attività. Ieri una sua domanda è stata particolarmente scivolosa e mi ha fatto dire in maniera forse anche ingenua che il dottor David Parenzo è un rettiliano. No, sì, corretto, ho capito, ma lei non è, scusi un attimo, non c'è bisogno, come non, lei, ma non c'è bisogno che lei sì, ma lei non c'è bisogno che corregga, perché so, non è che stiamo intervistando un ministro della Repubblica, abbia pazienza, signor Giacomo, adesso con tutto il rispetto. Un attimo solo. No. Io voglio capire chi è il capo dei rettiliani, di quello allora, che chiami in Italia. Chiaramente i capi sono degli esseri alieni che stanno sulla Luna. La Luna è un satellite artificiale, è una artificiale dei rettiliani. Loro stanno lì. Tant'è vero che quando ci si è andati, loro ad Armstrong hanno detto: non ti puoi avvicinare, qui ci sono i filmati della NASA. No, non è possibile, dai. Vabbè, ho capito, no, ma è così. Cioè, noi siamo dominati. No, è chiaro che è così, è evidente che è così. Noi siamo dominati da questi, in sostanza, no? Sì, perché viene detta praticamente matrice lunare. Sì. Questa matrice lunare, cioè perché la Luna emana delle onde. Ma perché gli dici di sì? Mi fai rabbia, ma perché gli dici di sì? Ma io dico di sì per così. No, perché dici di sì? I rettiliani vivono di emozioni negative, di emozioni della paura, dell'odio, del rancore. Ma come ho capito? L'amore. Tu come risponderesti? L'amore, un attimo solo, Giacomo. Parenzo, l'amore, l'arte li sconfigge. L'amore e l'arte li sconfigge, benissimo, Parenzo. Ma scusa, uno che parla di astronauti, di alieni, e tu gli dici anche di sì. Ah, ho capito, come ho capito? Cosa hai capito degli astronauti, gli alieni, i rettiliani? Dai. Non ho capito niente. Andrea dalla provincia di Cremona, buonasera. Pronto, buonasera Cruciani. Dica. Sì, io avevo chiamato ieri sera perché avevo sentito Castelli. Sì. Stasera forse capito più a Pisello perché ho sentito... A Pisello non avevo mai sentito questa cosa. No, avevo sentito Straguadagno. Sì, però dica. Ecco, semplicemente una cosa, esprimo la mia solidarietà a Straguadagno perché a quello che dice non ci crede neanche lui. Ormai la situazione del governo è talmente indifendibile, ma anche di fronte, stasera sentivo dal vostro telegiornale i commenti dei giornali esteri, cioè siamo arrivati al ridicolo più assoluto. Questi personaggi, per quanto io mi voglia sforzare in uno spirito democratico di cercare di capire, anche non essendo d'accordo con la loro idea politica, però dico può darsi che abbiano una soluzione diversa da quella che penso io, che abbia un minimo di senso. Ma non riescono neanche minimamente a dare un senso a quello che dicono. Quindi ripeto, sono assolutamente esterrefatto e ringrazio Parenzo per avermi dato soddisfazione di aver trattato così scilipoti. La sua risata l'ho messa sul telefonino come suoneria. La mitica risata di Parenzo, quando Scilipoti a un certo punto ha detto: sono il segretario di un partito, di un movimento. Il movimento ha dato una grossa soddisfazione. Paolo da Pisa, buonasera signor Paolo, dica. Buonasera Cruciani, complimenti per quello che fate. Volevo parlare di tasse, io chiedo sempre che, parlando, io faccio un agente di commercio, parlando con tanti miei clienti chiedo: ma potete detrarre anche il caffè? Ma perché non si può? E un'altra cosa, i signori deputati che prendono dei bei soldini tutti i mesi, ma la parola giusta è da dire, ma se li meritano questi soldi? La meritocrazia che parla tanto il signor Nano di Venezia, come l'ha definito Bocca. Lo definisce lui, lo posso definire anch'io. Ma no, ma non è che si deve ripetere tutte le sciocchezze che vengono dette, è un'offesa gratuita e stupida. Lei di sera l'ho sentita ripetere molte volte questo, lei mi sono perso un pezzo di trasmissione che purtroppo avevo degli impegni. Io non ho mai fatto battute sui difetti fisici delle persone, mai. No, ma io faccio una battuta riferita al signor Bossi, non la faccio io, questa è un'opinione di Bossi. Vabbè, allora, insomma, lei vuole dire non meritano i soldi che prendono. No, io vorrei metterli tutti a uno stipendio base di un qualunque dipendente, vogliamo dire 2.500 euro, poi a fine mandato se si meritano quello che hanno che sì, sulla base di cosa? Su Paolo, non diciamo stupidaggini, che si possa ritoccare. No, non sto mandando nessuna ambulanza, guardi, se mi spinge gliela mando pure. Abbiamo la borsa, torniamo tra un attimo. 800 24 00 24. Senatore Azzolini, il numero del senatore Azzolini. Ah, ottimo. Pronto? Senatore Azzolini? Sì? Sì. Pronto? Ci sei cascato, Ci sei cascato pure Cruciani. Senatore Azzolini, Antonio Azzolini, sindaco di Molfetta. Che è il senatore che vado a sentire prima, che al relatore della manovra del maxi emendamento del governo, nonché presidente della commissione bilancio, un uomo dalle molteplici attività, che nel 2006 si dimise da sindaco, no, fu eletto a sindaco, poi nel 2008 si dimise da sindaco, cioè fece commissariare il comune proprio per farsi eleggere al senato e dopo si è ricandidato a sindaco. Però se dici che è relatore del maxi emendamento, gli dai un ruolo anche, no? Maxi emendamento, relatore, questo signore no, è relatore. Non conta nulla, maxi. Dici, no? Non conta no, ma l'hai detto di relato, magari chi ascolta non è un tecnico della politica, sta tornando a casa, ha appena avuto uno scazzo con la moglie, con la fidanzata, e tu gli parli del relatore del maxi emendamento. No, per carità. Si immagina un uomo di una potenza assoluta, relatore del maxi emendamento. Sì, magari le persone manco sanno che cos'è il maxi emendamento. Ma cioè, neanche chi ha Azzolino. Tutte queste proposte che vengono fatte hanno, come dire, il terminale in un signore che poi fisicamente le presenta. E questo signore, ecco, si chiama Azzolini. Non conta assolutamente nulla, non preoccupatevi, anche perché se contasse qualcosa, risentiamo quello che ha detto ieri, ecco, rimandalo che è interessante, se contasse sì, qualcosa saremmo davvero alla frutta. Le pensioni, mo sto stato a lavorare io, guarda, io qui sto a lavorare. Se saltano detto le pensioni, come le compensano? Non lo so, se sa, diciamo, è la stessa cosa che se adesso facesse il temporale per me. Stiamo a lavorare. Maurizio, provincia di Treviso, buonasera. Buonasera, buonasera. Dica. Niente, io ascolto. Intanto Nitto Palma, il ministro della giustizia, dice carcere per gli evasori. Boh, io l'ho letto pure, l'ho letto sui giornali, non ne sapevo nulla. Come? L'ho letto sui giornali, così dice. L'ho letto pure io sui giornali, oggi non ne abbiamo parlato, cioè non ne sapeva nulla. Ministro della giustizia, vabbè, comunque. In Italia ci vorrebbe. In Italia ci vorrebbe, sì. Sì, ci vorrebbe, può darsi che ci vorrebbe, sì. La vogliono mettere per evasioni superiori ai 3 milioni di euro. Comunque. Sempre il solito trucchetto, va bene. Comunque, volevo solamente dire questo: io seguo molto la trasmissione e gli interventi che fanno. Non è che avevo dubbi su quello che pensavo, però ora ho avuto la conferma che sì, i nostri politici hanno la faccia come il culo. Va bene, però, calma, di che stiamo parlando? No, per il discorso della vergogna, senza offesa, ok? Però neanche lei è da meno. Perché non è possibile che cioè il nostro paese. Sì. Ha talmente tanti di quei problemi, ma sì, non a livello solamente economico, anche eticamente e moralmente. Sì. Un paese dove abbiamo la le delinquenze più organizzata. Vabbè, abbiamo capito. Allora? Non è possibile giustificare cosa? Tutto quello. Ma chi giustifica? Chi sta giustificando cosa? Di che stiamo parlando? No, vabbè, lei ha giustificato parecchie volte che la politica è questa, che è stato vabbè, sempre così. Maurizio, vogliamo parlare di qualcosa di attuale oppure dobbiamo parlare di non so che cosa? Parliamo di uno degli argomenti di attualità. Mi dica lei, no, scelga. Sul discorso della finanza. Vogliamo parlare, no? Che ne so, dello sfogo del premier al telefono con la Vitola in questa vicenda dell'estorsione dei danni di Berlusconi, in cui Berlusconi dice a un certo punto sono stanco, voglio andare via da questo paese di merda. Poi naturalmente allora, c'è subito chi fa il gioco su questo, mettendo online il video di quando Berlusconi diceva il paese che amo. Sì, Sì, però c'è un discorso che lui lo dice sempre, però non lo fa mai. Va bene, ecco, cioè andarsene, dice lei, va bene. Andarsene, no, il dice problema lei. È non quello che dice, è che telefona al signor Lavitola, che attualmente sembra essere latitante. Comunque questo è un altro aspetto. Sì, per dire questo telefona al signor Lavitola. Sì, ma adesso lasciamo perdere i rapporti da Berlusconi e Lavitola. Non riesco nemmeno a capire questa intercettazione che viene oggi naturalmente poi diffusa, eccetera. Cosa c'entri con l'inchiesta? Cioè, come al solito, no? C'è un'inchiesta che riguarda Lavitola, su cui pende una richiesta di arresto, viene intercettato Lavitola e non Berlusconi, e vengono pubblicate le intercettazioni del presidente. Sì, ma dov'è Lavitola adesso? Questo direttore editore di cui la procura ne ha chiesto l'arresto. È all'estero. Dice. È all'estero. Se gentilmente può tornare per chiarire la sua posizione. Ma tornerà Lavitola? Sì, tornerà, ma perché? Se ma può tornare gentilmente in Italia, se può tornare. Sì, ma tornerà, ma non è il punto adesso. Il Lavitola è lo stesso della casa di Monte Carlo, bisogna ricordarlo ai tuoi radioascoltatori. Sì, è lo ma perché sì. dell'affaire della casa di Monte Carlo, è un signore che no, sia una persona che con cui Berlusconi ha a che fare, non c'è dubbio. Forse gli ha affidato dei compiti particolari, non lo so, ma non il punto adesso non è questo, il ruolo di Lavitola, un'inchiesta che è all'inizio, eccetera. È la pubblicazione di un'intercettazione. Perché Berlusconi in questa intercettazione dice vado via da questo paese di merda, dopodiché sappiamo di questa intercettazione perché viene resa nota. Io non voglio difendere nessuno, detto questo viene intercettato Lavitola, in mezzo c'è Berlusconi, e Berlusconi non si potrebbe intercettare naturalmente, viene pubblicata una intercettazione che mi sembra, adesso per carità va bene tutto, ma non mi sembra di grande importanza per qualsiasi cosa abbia commesso Lavitola, no? Qualsiasi cosa abbia commesso Lavitola, magari ha stuprato qualcuno, non lo so, ma ti sembra un'intercettazione che ha una importanza all'interno del processo? No, le intercettazioni in cui Berlusconi non sta a me giudicare. No, ma non sta nemmeno a giudicare, però dall'esterno, quando senti una telefonata, viene pubblicata una telefonata in cui Lavitola dice, Berlusconi dice alla Lavitola vado via da questo paese di merda. È una telefonata interessante per un procedimento penale? No, non credo, se è solo non credo assolutamente, certo, questo mi sembra evidente. No, così a occhio, e poi magari sarà a utile, occhio, sarà utile per dipingere il quadro, come fanno, dicono sempre, no, poi sarà utile per fare la fotografia di un personaggio, di un contesto, quello che ti pare. Che signor Lavitola, nell'ambito dell'inchiesta contabile. Vabbè, ma quello vedremo, dai, quello è vedremo. È stato chiesto l'arresto, oggi non c'è in Italia, non c'è il signor Lavitola. Ha detto che editore, tu ti ricordi un articolo del signor Lavitola, perché ma non lo so. È rimasto nella storia del giornalismo un articolo del signor Lavitola. Vabbè, ma uno può fare anche il giornalista all'avanti senza fare la storia del giornalismo, non è quello il punto. Matteo da Cesena, buonasera. Ah, buonasera. Dica, volevo chiederle perché lei pensa che Massimo Fini sia un folle quando dice che Hitler comunque sia una sua coerenza. Scusi, io non ho detto, innanzitutto ho detto folle in senso naturalmente buono, nel senso buono del termine, se ci può essere un senso buono del termine. Mi sembra una follia quello che ha detto, non ho detto che è un folle. Ha detto che è una cosa folle quella che ha detto. Ma sì, ma cosa c'entra il paragone tra un dittatore, un'altra epoca e dare dignità al suicidio di Hitler? Mi sembra una cosa ridicola da parte di Massimo Fini, cioè ha dato un minimo di dignità a uno che si è sparato, Hitler, di che stiamo parlando? C'entra la dignità, voglio dire, non ha dato anche la coerenza del Ma qual è la coerenza di Hitler? Di aver leccato il proprio destino al piano che aveva, quando il piano che ha avuto si è dimostrato, diciamo, fallimentare, lui si è sparato. Ma io non parlo di coerenza. Gaddafi manda delle persone a morire pur sapendo che, voglio dire, è indifendibile la sua posizione, senza futuro, non può offrire nessun futuro a nessuno di quelli che lo seguono, ma malgrado ciò li invita a morire. Guardi, questa non è coerenza, Matteo, è questo che è stato coerente. Quindi francamente non mi sembra un paragone proponibile. Effettivamente non mi sembra un paragone, però parla di quello, è proponibilissimo. Secondo lei è proponibilissimo, a parte che c'è una coerenza anche in Gheddafi, che resiste fino all'ultimo, fa i suoi proclami. Lui resiste fino all'ultimo, ma come resiste fino all'ultimo? Ho capito, perché resistere gli altri. Perché invece Hitler che faceva combatteva, perché Hitler che faceva combatteva, abbia pazienza. Hitler innanzitutto non è uscito da Berlino e si è messo al bunker, poi si è ucciso. Basta, sto finito. Ho capito, magari si ammazzerà anche Gheddafi, ma insomma la questione ancora non è finita, ma il punto è evocare Hitler in un... Il discorso di Fini era plausibile, era un confronto, non era una cosa folle. Non è una cosa folle, secondo me è una cosa folle, una cosa normalissima. Se si confrontano tutti gli atteggiamenti dei vari dittatori, c'è un filo comune che li accomuna. Sì. Hitler, certo, nel male è stato coerente. Perché il fatto che la coerenza sia un fattore positivo in luogo comune, che sia la coerenza comunque una cosa positiva, può anche non essere positiva. Se ma dov'è la coerenza? Non è che il suicidio di un dittatore come Hitler la coerenza ma è una cosa pazzesca. Ma è come dire guardi, qui c'è uno stupratore seriale, però è stato coerente per la sua vita. Sì, cazzo, però è uno stupratore seriale del demonio. Cioè, il demonio è coerente perché punta inesorabilmente sempre comunque al male, no? Cioè, il male è coerente a se stesso, non c'è niente di strano, voglio dire, anche se si dice che Hitler ha avuto una cosa coerenza, questo è normalissimo, ha fatto bene Fini, non è assolutamente una cosa folle. Non è folle, a lei Hitler in qualche modo le sta simpatico, no? No, a me Hitler è simpatico. E che ne so? Cosa sta dicendo? No, una domanda. È una domanda. Io analizzo la cosa che ha detto Fini. Ah, benissimo. No, ma magari. Simpatico. Benissimo, no, è una curiosità. Tutti quelli che assoggettano dei popoli ai propri piani folli non comunque, possono essere simpatici a nessuno. Secondo me ha detto una cosa che non sta né in cielo né in terra. Io sono cattolico, quindi Hitler proprio. Ma no, ma per carità, non si preoccupi, non volevo. Sì, Hitler mi sta simpatico perché ha detto che è coerente, adesso mi deve essere simpatico. Ma non ho detto, lei mi ha detto di no. Ma di affrontare le cose. Che sì, cazzo di modo è? Si calmi, signor Matteo, ma si calmi. Calmissimo. Si calmi. Stia calmo. Non l'ho accostato a nessuno, no, ho semplicemente fatto Cruciani, una. Sa cos'è? È un po' ignorante, perché ha questa cultura un po' così radiofonica. Sì. E alla fine fa delle gran gaffe, dice delle grandi. Per esempio? Ma ad esempio come quella che ha detto di Fini e altre volte. Un attimo solo, quale gaffo? Ho dato un giudizio, ma di che sta parlando? Un attimo solo, fermo, stai lì. Pronto? Ma non mi freghi stavolta. Me l'ho dato da fregare. Signor Azzolini, Antonio Azzolini, magari. Sì? Tanto non lo so che non sei tu. Niente, senatore vabbè. Azzolini. Sì, senatore Azzolini. PDL. Relatore della maxi emendamento. Squilla in vano. Sì, squilla, starà trattando starà ricevendo gli emendamenti. Si sta occupando del maxi emendamento, no? Maxi emendamento. Gli imprenditori in ascolto stiano tranquilli. Azzolini si sta occupando di voi. Vabbè. Ma adesso poi solo perché ha sbagliato a dire una parola, dai, effettivamente. No, anche ha sbagliato. No? Voglio chiedere come fa a essere multitasking, è interessante, no? A essere multitasking. Cioè, a essere sindaco di Molfetta, a fare il presidente della commissione bilancio, a fare il relatore. Dopodiché però è Molfetta, non Milano, no? Vabbè, Molfetta, non è facile amministrare Molfetta. Allora, 40.000 abitanti, quanti sarà Ti pare poco. Dov'è il signore di Cesena? Non c'è più, me lo richiamate, per favore. Edoardo da Firenze, buonasera. Buonasera. Dica. Cruciani Parenzo, buonasera. Sì. Io faccio dire arte che faceva suo padre. Che fa? Faccio l'agente di commercio. L'agente di commercio, benissimo. Infatti, venendo sempre per la strada, vi ascolto spesso e mi diverto. Bene, grazie. Mi è venuta una bella idea, senta, io credo che sia una bella idea. Noi siamo nella Comunità Europea, giusto? Come Italia. Fino a prova contraria, sì. Ecco, allora perché non facciamo un cambio di ministri? Gli diamo i nostri e loro ci danno il loro. Per esempio, lei vorrebbe bene Calderoli alla Camera dei Lord? No, ma va bene come battuta, però non scherziamo. Non si può fare, Lo so che non si può fare. Non si può fare, anche perché non ci capirebbero nulla dell'Italia, ci metterebbero 5-6 anni. Gli inglesi, però, i Lords, che dicono quando parla Calderoli... Ministro della semplificazione della Camera dei Lord, sarebbe bello con la parrucca in testa. Ma lì non c'è niente. È tutto già semplificato lì, per cui tutto vestito di verde, a un certo punto parla e i Lord dicono "Pardon, sir". Si immagina che in 4-5 anni l'Europa sarebbe presente al nostro livello, no? Quindi non si risolverebbe i nostri problemi praticamente. Sarebbe bellissimo. Oppure Bossi in vista alla Camera dei Lord. Bellissimo, quella parrucca. Quella parrucca, come ce l'hanno da secoli la parrucca. La parrucca, fa caldo, la parrucca. No, è bellissimo, sarebbe meraviglioso però. Va bene Edoardo, grazie. Gianluca da Genova, buonasera. Sì, buonasera Cruciani, Parenzo. Innanzitutto complimenti a Parenzo perché l'imitazione di Bossi batte quella di Grillo 10-1, questo. No, ma non sono non io. Ci piove. È veramente bravo. Ero in galleria, quindi non sto se avete parlato già della pubblicazione online. Non si preoccupi, lei vada pure, non si preoccupi. Non vedo alcun pro alla pubblicazione online dei redditi dei cittadini, in quanto facendo io, il commercialista vedo più dei contro che dei pro. Ho clienti che fanno una vita onesta, vivono basso profilo, diciamo, però magari sono veramente milionari, e se un domani fosse messo online il loro reddito, i loro figli quando vanno a prenderli a scuola secondo me sarebbero a rischio, perché tutti saprebbero che sono facili preda della malavita. Ecco, sì. Ora non è che la malavita abbia bisogno degli elenchi online dei ricchi per andare a pizzicare qualcuno, però io pure non vedo grandi vantaggi, però insomma, non sono un esperto di queste cose. Servirebbe a fare gli sceriffi? Come, scusa Parenzo? No, seriamente, mi pare un'opzione molto, molto corretta, molto giusta, ma non possono neanche farlo, viola tutti i diritti della persona, del privato, cioè il conto del pubblico. Scusi, come libero professionista e anche i miei colleghi avvocati, cioè viviamo con mille adempimenti relativi alla privacy, da rispettare il sindacato d'appartenenza, la fede religiosa, la sanità. No, ma poi c'è di più, vi scandalizzate, e anche l'amico amicissimo Cruciani si scandalizza perché io vorrei ritassare questi ladri che hanno portato il capitale dall'estero, e c'è questo patto della segretezza, per cui da una parte non possiamo sapere i nomi di questi ladri, da una parte, e dall'altra invece facciamo un favore per cui pubblichiamo i redditi di tutti, cioè, ma sarà un bel paradosso, per cui i nomi dei ladri... Ma che c'entra, quello è un accordo per portare i soldi che non potrebbe essere fatto se non in questo modo. Ma capisci che è una ma quale contraddizione? Non c'è nessuna contraddizione. Perché i nomi dei ladri non posso sapere. C'è una contraddizione. Io non posso, ho il segreto professionale nei confronti del cliente, non posso dire all'altro cliente, quel mio cliente guadagna 1 milione di euro, perché sennò mi denuncia, però se lo va a vedere online allora va bene, questo è un controsenso. Sì, ma guardi, io non lo so, non vedo nessun vantaggio se non quello delle invidie, ripicche, cose di questo tipo, insomma, piccole delazioni, quello c'ha lo yacht, quell'altro c'ha la casa, che poi concretamente portano una marea di denunce che non vanno da nessuna parte. Ci sono metodi secondo me più efficaci per contrastare l'evasione fiscale che non la pubblicazione online dei redditi delle persone. Dove andiamo? Andiamo a presentarvi un senatore. Eccoci qua, senatore, come sta? Come va? Buonasera. Il senatore come va? Bene, il senatore. Stiamo lavorando per voi. Adesso lo siamo. Adesso per noi. Anche per noi, vabbè, si spera sempre quello, senatore Belisario. Si spera noi lavoriamo sempre per voi. Sì, sì, insomma, questo si dice sempre. I deputati lavorano per noi, i senatori come lavorano. Sono andate le vacanze? Belisario? Come sono andate le vacanze, senatore Belisario? Il pinguino. È bella sta canzone, però. Il pinguino. Devo riscoprire le parole. La prossima volta prometto gliela canto per intero. Già la volta scorsa l'aveva accennata. Stavolta faremo la prossima volta. Avanti. Come sono andate le vacanze? Sì. In pratica l'11 agosto eravamo qui per sentire una super manovra. Sì. No, ma le sue vacanze che ha fatto? E poi sono tornato il 22 di agosto qua. Io voglio capire le vacanze molto molto poche a ma casa al mare. A casa al mare dove? Dove? In Puglia. Ah, in Puglia. Sì. Bravo. In Puglia. Senta, ma ha letto quello che dice De Magistris sull'Italia dei Valori? Proprio delle bastonate pazzesche, Ma non mi pare. Ma come non mi pare? Non mi pare. Più di questo che dovrà dire? Cioè, non mi pare. Beh, insomma, delle cose pesantissime. Leggiamo qualche passaggio, leggiamo. Leggiamo. All'Italia dei Valori faccio paura perché sono meglio di loro. Ho portato 500.000 di voti, neanche una scheda telefonica, cioè manco un ringraziamento. Poi dice che piace molto alle donne. Perché piaccia, io non entro in concorrenza con lui, sicuramente lui è più aggregabile di me, più gradevole di me. Ma è vero che piace molto la testa. Scusi un attimo. Guardi, io non lo so. No, così, io uno uomo non so. Ma le risulta, le risulta che è una persona molto appetibile, cioè molto, cioè ricercata dal genere femminile, il signor De Magistris? No, guardi, io non mi occupo di questo. Non si occupa di questo, vabbè. Di curiosità. È vero, è quello che dice, che quello che dice De Magistris, che a volte, cioè Di Pietro, credo, sceglie persone impresentabili o modeste che nulla hanno in comune con l'Italia dei valori? Ma guardi, insomma, mi dica qualcosa su De Magistris, come le pare? Si è montato la testa, come dice Parenzo? Che si è montato la testa, se lei fa una domanda a me, io le rispondo che io sicuramente sono migliore di De Magistris. De Magistris, ah, lei è meglio di De Magistris, dice che è migliore di me, ma ognuno ha un ego particolare, lei deve c'è il, lei sa che il venditore c'ha il dolus, il dolo buono, cioè il venditore vende bene la sua merce, sì. deve evidentemente ognuno di noi pensa di essere più bravo di altri. Beh, insomma, però uno di solito non lo dice dei compagni di partito, all'Italia dei valori faccio paura perché sono meglio di loro, insomma, questo. Però può essere, questa storia lo abbiamo, ma no. Non butti acqua sul fuoco, Belisario. No, ma io non butto acqua sul fuoco, tanta stima in Luigi De Magistris, non vedo perché dovrei preoccuparmi. Abbiamo fatto campagna elettorale per lui, l'abbiamo fatto anche a Napoli quando è stato candidato sindaco, l'abbiamo fatto convintamente, non solo io ma tutto il partito, per cui... Ma si è montato un po' la testa o no, come dice Parenzo? Secondo me sì, si sente ormai pronto. Magari questa vittoria lo ha inebriato, questo grande successo. Un po', che De Magistris abbia avuto una grande vittoria. Ma questo non c'è dubbio, ecco, è un dato. Ma si è montato la testa o no? Si è un po' montato la testa, Belisario, questo qua mi sembra... Ma per me no, sta facendo bene il sindaco, sta ripulendo Napoli dai rifiuti, facciamolo tutti quanti lavorare, diamo giù una mano al lavoro. Noi dell'Italia dei Valori diamo una mano per lavorare. Ma è vero che l'Italia dei Valori ha presentato alcune persone che sono impresentabili o modeste, ha scelto persone impresentabili o modeste? Ma guardi, ripeto, che in un partito politico... come dice Di Pietro, anche a Gesù Cristo qualcuno l'ha tradito, può capitare, e dopodiché l'importante è evitare che per il futuro accadano altri, che facciamo altri scivoloni. Dice anche che il nome di Di Pietro dovrebbe essere tolto dal simbolo del partito. Sì, ma guardi, questa noi l'abbiamo portata al congresso nazionale, abbiamo provato a fare votare la rimozione su richiesta del presidente Di Pietro. Sicuramente l'evoluzione dei partiti porterà a una spersonalizzazione, il nostro come tutti gli altri. Dunque, quando è che lo togliete sto simbolo di Pietro? Quando faremo il prossimo congresso, che faremo a scadenza prevista dallo statuto. Quindi a breve sparirà il nome di Di Pietro dal partito, vabbè. Ma guardi, è un'evoluzione naturale. Non c'è niente di strano. Cioè, alle prossime elezioni non ci sarà sicuramente il simbolo di Pietro. Se il congresso lo deciderà. Se il congresso lo deciderà, adesso vogliamo sapere la sua opinione. Per lei va tolto o no? Per quanto mi riguarda, considerando che Antonio Di Pietro è il fondatore del partito, e noi gli siamo grati per aver dato al paese la possibilità di esserci, cioè è evidente che Antonio Di Pietro chiede. Come ha già chiesto di togliere il simbolo dal partito, è perché il partito non dovrà, diciamo così, per sintetizzare, che l'opinione di Belisario le ho già detto che sono per la spersonalizzazione dei partiti. Ho capito, però sia un po' più chiaro. Secondo me il simbolo andrebbe tolto, punto, è il più presto possibile. Questa è chiarezza, non le circonlocuzioni così. Ma io non dico io le ho detto l'ultimo congresso nel 2010, deciso di lasciarlo, lo abbiamo lasciato. Se faremo un congresso prima, lo toglieremo e lo chiederemo noi siamo un partito. Ma lei non deve dire noi, deve dire io, Belisario. Noi siamo un partito democratico. Sì, ma lei deve dire io, Belisario. Secondo me è basta, nel senso il simbolo di Di Pietro va tolto, punto. Invece lei dice noi il congresso faremo. Noi, forse. Dai valori, noi. No, anche lei è una persona. Ma ce l'abbiamo l'imitazione di Di Pietro, di Guzzanti? Ce l'abbiamo, Guzzanti che imita Di Pietro, che è straordinario. Noi, Dai valori. pezzo straordinario che ho visto che lì. Anche Parenzo si sta allenando bene con l'imitazione, eh? Parenzo è il numero uno, no, no, Di Pietro, Di Pietro, Di Pietro, Belisario, no. Vabbè, insomma, comunque lei Belisario. Non gli no. Secondo me intervistare Belisario come intervistare Di Pietro. Perché? Cioè, a questo punto noi abbiamo. Perché dicono le stesse cose, cioè, Belisario è un fedelissimo. Ma no, va bene, però non voglio è un capire, questo De Magistris dice che Di Pietro si è scelto ogni tanto degli incompetenti impresentabili. Impresentabili e modeste. Dice che all'Italia dei Valori faccio paura perché sono meglio di loro. Ci c'è un establishment che non mi sopporta. Nomina. Parla anche indirettamente di lei, signor Belisario. No, a me non risulta. Ho letto il libro, ancora non l'ho letto, però non mi pare che ancora mi citi. Forse mi citerà a puntate tra qualche giorno, ma non penso. No, ma non è che la cita esplicitamente. Insomma, parla del fatto che lui si sente in realtà migliore di tutta il resto della classe. Io ribadisco, mi ritengo migliore di lui. Ma qual è il problema? Io ho un ego smisurato e per cui Belisario penso di essere migliore di tanti altri. Allora dica, potrei fare anch'io il sindaco di Napoli, altro che De Magistris. No, perché io potrei fare il sindaco della mia città, non il sindaco di Napoli. La mia città è Potenza, è un po' più piccola. Vabbè. E chi l'ha detto che la prossima volta non mi candida a fare il sindaco? E chi l'ha detto? E chi lo, ecco. E chi lo può... Ecco la notizia. Nessuno lo può... Abbiamo l'apertura del Corriere della sera di domani. Belisario 2 punti, farò il sindaco di Potenza. No, siamo un quotidiano locale, commisurato all'importanza di una bella città. Il Corriere della sera lasciamolo per Napoli, Milano, Roma. Una bacchettata però per quello che ha detto va data al signor De Magistris, Belisario. Un piccolo rimprovero, non dico un rimprovero, però un piccolo rimprovero ci vuole dopo questa sortita nel libro di Isabelli Fioretti. Un piccolissimo rimprovero glielo vogliamo. Un buffettino. Ma i libri vanno venduti, eh? Così come i giornali vendono a seconda dei titoloni che mettono, a prescindere dal contenuto dell'articolo, la stessa cosa succede in questi casi. De Magistris si è comportato una persona per bene, di dare dei valori nei suoi confronti, e continuerà a comportarsi per bene. Vabbè, insomma, per vendere il libro le ha dovute sparare grosse, questo è il punto. Bisogna vendere un libro, questa è una risposta. Abbiamo la pubblicità. Mi sembra sempre che è come quando giochi a carte e tieni 3 coppe in mano e vince coppe. Poi quando tocca a te, quello dice, no, adesso va le spade. Ma come? Quando faceva comodo a te era coppe. Mo che è il cittadino che tiene le coppe va le spade. Allora noi dell'Italia dei Valori, se il dito indica la luna, non è la luna, che la luna già stava prima. Qua è il cittadino che se io porto l'esca per chiappare lo scarfaglione, mi porto l'esca per lo scarfaglione, se tu mi dici che la barca ci mette le ali, non è che diventa un aeroplano, capisci a me? Qua siamo sempre a tagliare il salame col cucchiaino, se io porto la forchetta, tu mi versi a minestre, loro si pensa che i cittadini stanno qui per farsi vendere fumo e farsi fregare l'arrosto, ma così neanche senza un bimbo in mano. Allora, per esempio, l'altra sera, stando calmo, l'altra sera, noi dell'Italia dei Valori, è finito il provolone. Beh, senatore Belisario, il numero uno assoluto. È un maestro. Imitazione splendida. Splendida, non c'è dubbio, splendida. Senta, secondo lei si scrive Bersani e si scrive Penati e si legge? Penati, non si legge Bersani, no? Ma no, non ci sono le stesse lettere. Non ci sono le stesse lettere. No. Non ci sono le stesse lettere, dice. No, non ci sono le stesse lettere. Manca la B, manca la S, manca la R. Ma perché Di Pietro è stato così duro invece con Bersani? È stato un invito, un'esortazione. Ha detto che battaglie comuni sulla questione morale. No, ma Belisario, come ma mio lei tipo... fa il pompiere. Ma lei fa il pompiere di professione. No, facevo una volta quando non ero parlamentare l'avvocato, quindi Ma lei oggi. Ma allora basta, denunci tutti, vado all'attacco. Vado all'attacco. Io sono un moderato, guarda. Un moderato. Su Berlusconi non è un moderato, lei dice di tutti i colori su Berlusconi, ha detto pure. Ma quello ne combina di tutti i colori. Ho capito, quello, lei l'ha paragonato a Hitler, non so. Ma chi. io non faccio altro che fotografare quello che fa lui. Non sono un pittore, quindi non posso fargli ritratto. Ma una volta pure Hitler l'ha paragonato Berlusconi, mi ricordo. No. Sicuramente. Quando ha detto che nel Parlamento potrebbero votare soltanto i capigruppo, non mi pare che questa fosse una richiesta molto democratica. Beh, diciamo che il Parlamento con Hitler non c'entra molto, scusi. Ho capito, però con Mussolini c'entrava, il Parlamento c'è stato anche se non funzionava. Dunque, lei, Berlusconi a chi lo paragona? Oggi a chi lo paragona? Facciamo un elenco di persone. Il Berlusconi di oggi. Un elenco di persone. No, il Berlusconi di oggi è paragonabile soltanto a Berlusconi, uno chansonnier che col passare degli anni continua a fare il mestiere che faceva 50 anni fa. Ma come personaggi storici, a chi lo avvicina? No, per l'amor di Dio! Come qualsiasi personaggio storico si sentirebbe offeso. Ma uno, proprio uno! No! Ma per l'amor di Dio! Ma ha ragione Bocca quando dice che il Partito Democratico è come il Partito Socialista? Bocca evidentemente conosce meglio di me il Partito Democratico, io non glielo so dire. E dunque? No, ma lei il Partito Democratico, la sua opinione. Che probabilmente in qualche parte del territorio ha una gestione del potere un po', come dire, troppo garibaldina. Ma dovrebbe buttare Bersani, come dice Bocca, dovrebbe buttarsi a mare? No, poverino, se sa nuotare non può fare anche. Ho capito, ma tra Penati e Bersani, no? Di Pietro è stato molto chiaro. Poteva non sapere Bersani? Questa è la domanda, Belisario. Ma guardi, lo dice anche De Magistris oggi, un'intervista, sempre il solito De Magistris, su Intervista Repubblica. Non poteva non sapere queste cose, gli affari, a prescindere dalle responsabilità penali, il vertice del Partito Democratico non poteva non sapere. Bersani è in imbarazzo perché ricordiamoci che era a capo dell'organizzazione che l'ha portata a fare il segretario nazionale. Però ovviamente. Le responsabilità sono personali. Ci mancherebbe. Certo. Io chiedo scusa. Prego. Lei potrebbe avere una moglie che le mette le corna ed essere l'ultima a saperlo. Sì. Quello questo certo. In genere è sempre così, generalmente. Generalmente è così. E quindi io per forza devo far salvo il segretario del Partito Democratico, fino a prova contraria. Certo. Cioè, nel senso, in questo caso Bersani è il marito, la moglie sarebbe il suo collaboratore, cioè Penati, è venuto a saperlo per ultimo che gli metteva le corna. Questa è la sua analisi, diciamo. Penso che così sia stato. Analisi del senatore Belisario. Penati, cornuto, ultimo a saperlo. Perfetto. No, Bersani, no, cornuto. Bersani cornuto, ultimo a saperlo. Allora, il signor Matteo da Cesena, con cui eravamo in collegamento prima, me ne ha detto di tutti i colori, mi ha detto ignorante, eccetera, eccetera. C'è ancora il signor Matteo? Pronto? Oh, eccoci qui, signor Matteo. È due ore che sono qui ad attenderla. No, che due ore? L'abbiamo cercata per telefono. Avevamo anche altro da fare, amico mio, comunque. Anch'io. Dica lei, allora proseguiamo la nostra discussione. Ci siamo interrotti, scusi. Qualcuno ci ha interrotto, signor Matteo. Non ho capito bene questa cosa qui. Dunque, io le ho detto, lei ha simpatie per Hitler? Domanda, punto interrogativo. E lei mi ha aggredito come se avessi detto chissà che cosa. Giusto, poi mi ha detto che sono ignorante, qualunquista, radiofonico, questo è un dato di fatto. Beh, come dice lei, l'ignorante, chi è che non è ignorante? Come dice lei, voglio dire. Ma appunto, siccome non è un'offesa per me, anche lei sarà ignorante allora. Ah, certo. Ah, dunque, siamo tutti e due ignoranti. Certo. Ah, bene, d'accordo. Questo voleva dire. Io sono un po' più modesto quando cerco di raffrontarmi con le altre persone, quindi non difficilmente uno mi si può scagliare contro e darmi dell'ignorante, sono un po' più umile, diciamo. È un po' più umile. Quindi non scateno questo genere di atteggiamenti. Però. Ma infatti sono qua apposta per scatenare questo tipo di atteggiamenti, altrimenti non starei qui, caro Matteo. Non so se questa cosa l'ha capita. Se non l'aveva capita prima, gliela spiega adesso. No, no, ma lo so perché. Ma l'atteggiamento del signor le frasi del signor Fini, cioè Hitler è stato più coerente a una sua dignità a essersi suicidato. Continuo a pensare che siano un po' folli, un po' fuori luogo, cioè evocare. Ma io sento sempre i paragoni, li sento sempre i paragoni dei dittatori. E infatti uno ha fatto così, l'altro ha fatto cos'ha, questo ha gestito il potere in un modo, questo in un altro, la fine che hanno fatto. Non mi sembra una cosa, un'analisi, voglio dire, mi sembra un'analisi trita e ritrita, alla fine avrà fatto la sua all'interno di un articolo, avrà detto per condannare ovviamente la vigliaccaggine di Gheddafi, avrà voluto dire persino Hitler aveva una sua coerenza, avuto una sua coerenza. Vabbè, ma uno non può dire che ha detto. Ma non mi sembra un paragone, dipende nell'articolo come era, mi sembra una cosa. Non è un articolo, è una voce, è la voce. Banale. C'è anche la voce. Più che folle. Folle, mi sembra una cosa così. Vabbè, folle. Ma comunque, non ho detto una cosa gravissima, ho dato un giudizio tranchant su questa frase di Fini. È una cosa gravissima, però il suo modo di affrontare le cose così. Sì. Adesso non mi faccio fare il moralista. Ecco. Carini che siete, bellini. L'abbraccio, no. Signor Matteo, l'abbraccio. Saluto, l'abbraccio. Salve. Grazie. Signor Belisario, buona serata anche a lei. Buon lavoro e grazie. Dove va? Fotò, grazie ancora. Ma dove va adesso? Dove va? Dove va? Io sto seduto al Senato per preparare gli emendamenti perché pure la lei. Maggioranza ha fissato il termine di scadenza per domani mattina. Lo so. Scrive tutta la notte. Scrive tutta la notte. Un attimo solo, voglio chiamare il senatore. Ancora il senatore Azzolini, eh? Lei lo conosce il senatore Azzolini, signor Belisario? Lo conosco bene. Ah, perché è vero, lei è pugliese, dunque sindaco di Molfetta. Lo conosco bene. È uno di quelli che hanno il doppio incarico, no? Sindaco di Molfetta. Noi abbiamo chiesto che venga rimosso subito, ma Azzolini ha presentato un emendamento. Signor Azzolini? Signor Azzolini? Chi è? Buonasera. Sono Cruciani, Radio 24, come sta? Bene, che sta facendo in questo momento? Mi scusi, sto lavorando naturalmente, sto vedendo tutti gli emendamenti per domani. Sta facendo tutti gli emendamenti per domani. Certo. Scusi, però posso togliermi una curiosità così al volo veloce? Non la disturbo per due ore, per carità. Ma no, molto breve, perché davvero sto lavorando. Brevissimo, prego. Brevissimo. C'è qui con me anche il signor Parenzo. Parenzo, ci sei? Buonasera senatore, è un piacere sentirla, grazie per essere con noi alla radio del Sole 24 Ore, grazie. Buona serata. Senta, ma lei come fa a fare il relatore e fare anche il sindaco di Molfetta? Lavoro tanto. Cioè, riesce a trovare il tempo? Questo sì, è un... come si può vedere. Come è possibile? Come fa? Lavoro molto, sono abituato ai contadini, lavoro 7 giorni a settimana, è così per noi. Ah, 7 giorni a settimana? Sì. Però il fatto di avere questo doppio incarico, ecco, no? Ma lei presenta anche degli emendamenti sulle compatibilità, sulle incompatibilità, è un po' strano. Mi occupo di tutta la manovra, 50 miliardi, lei deve vedere le cose grandi e ha già l'età per farlo. Ah, chi ha già l'età? No, cioè, lei, per vedere le cose grandi. Ah beh, le cose grandi, certo. Cioè, in mano, no, questo è importante però, gli ascoltatori di Radio 24 in questo momento stanno ascoltando il senatore. Sì, ma guardi, io sto vedendo gli emendamenti della manovra 50 per l'Italia miliardi? E ciascuno parametra alle cose che sta vedendo. Lei ha questo interesse, io ahimè badare anche a questo, per cui la prego gentilmente, come vedo, di essere concreto, solido, preparato e parlare con me. Prego. No, ma che c'entra la solidità e la preparazione? Non è preparato, di che parliamo? Della manovra, e di questo devo parlare adesso. Per fare una manovra per l'Italia bisogna molto prepararsi, studiare molto. Certo. I contadini studiano molto. Ma io non voglio fare studia lei, e prima di parlare. Ma io non voglio fare. Ho studiato la manovra. Sì, d'accordo, io ho studiato la manovra, anch'io ho studiato la manovra. Parliamo di queste e Come mai un senatore che ha incarichi così importanti, tanto da gestire emendamenti per 50 miliardi di euro, fa anche il sindaco di una città con un numero consistente dal popolo, punto di domanda, a chi è eletto governa e amministra, lo sa lei? Non è preparato. Lei deve studiare molto nella vita, purtroppo non lo fa, abituato ad occuparsi di queste cose, perché uno è eletto, così si fa. Sì, ok, però c'è stato anche un passaggio, lei nel 2006 era sindaco. Sono ricandidato e sono stato rieletto. Però prima si è dimesso, mi sono candidato e rieletto. Ma prima si è dimesso. Il popolo ha fiducia, quando vota di me, non di lei. Ma prima, ma io la differenza fra me e lei. Io non abito a Molfetta, però. E quando abiterà, forse mi voterà o no, come si fa, no, in democrazia. Può darsi, può darsi, ma infatti non è mica in dubbio la sua elezione. Ma no, è per capire, che fa lei? Un giovanotto come lei dubita di quello dell'esercizio della sovranità, no, democratica? No, per carità. Ma no, capisco, lei si occupa di altro. No. Ma andiamo avanti sulla manovra, non ho tempo da perdere come lei. No, però scusi, io veramente sto lavorando, sto lavorando anch'io. Sto lavorando anch'io. Sto lavorando, mi guarda. Adesso sbrighiamoci, però. Le sono grato, ma le dobbiamo. No, per carità, no, ma ci sbrighiamo subito. Una domanda molto semplice che non riguarda la manovra, che è una cosa molto complicata. Comunque l'entità generale è 50 miliardi, no? Giusto? 46-47. Sì. 46-47. Quindi 46. Lei gestisce questa il Parlamento non gestisce. Il lei Parlamento. Sì, no, ma lei direttamente. Vede che lei le mancano i rudimenti proprio. Sì, deve stare lei. Ma lei mancano i rudimenti proprio. Come fa? Lei deve andare a studiare prima di. Ma lei il Parlamento non gestisce. Ma lei è una zanzara dentro il casco chiuso, Io le voglio insegnare qualche cosa, così lei stasera va a ripetizione e impara. Il Parlamento, il Parlamento legifera mentre il governo gestisce. Vabbè, andiamo avanti. Lezioncina di diritto costituzionale, esattamente. Lei fa bene ad apprendere le lezioncine, anche le lezioni sarebbe meglio. Come altra lezioncina come di etica pubblica. L'etica pubblica vorrebbe che se uno fa il senatore e fa anche il sindaco, uno di quei incarichi lo lascia, va bene? No, lei deve sapere che il sindaco lo si fa gratuitamente, senza. Ma questo compenso. Non c'entra, questo non c'entra niente col principio. Allora, no, però vabbè, non vogliamo polemizzare su questo, senatore. Vabbè, non polemizziamo. Per carità, no, allora, però quando lei nel 2008 si dimise da sindaco e fece commissariare il comune, di conseguenza lo fece per ricandidarsi. Ma lei mi ha detto che parlavamo della manovra. No, ma io di che cosa vuol parlare? No, per questa cosa qua, una curiosità. Nel 2008, parliamo del 2011, del 2008. No, parliamo quando del 2008. Lei si dimise nel 2008, lei è molto bravo comunque, ammetto che è molto bravo. Nel no, grazie, grazie, grazie, grazie. Nello scontro è molto bravo. Io voglio andare in vacanza col senatore. Natale andiamo, voglio fare Natale col senatore Azzolini. Addirittura, adesso non esageriamo. Io, te e il senatore Azzolini. Adesso che state a Natale, siamo di sciocchezze a pagamento, siete pagati per di sciocchezze, sì. Arrivate a una domanda. Purtroppo sì, purtroppo sì. Bene, allora sì. Finalmente, allora parliamo di una cosa, mi chieda che cosa. Allora, io le rispondo e poi devo continuare a lavorare. Assolutamente, l'ultima cosa, definitiva, innanzitutto ci ha detto una cosa interessante, che la manovra sarà di 46-47 miliardi, questo è una certezza. Lo vede che abbiamo ottenuto la notizia, la manovra sarà di 46. E allora lei manda i giornali, legge, è da 15 giorni. Ma se avete cambiato idea mille volte, avete cambiato idea 40 volte. Lei adesso io le voglio tanto bene, sì. E spero di incontrarla più presto, le ripeto, l'abbraccio per darle qualche lezione. L'abbraccio anch'io. Perché deve sapere che i saldi sono invariati, vede che qualche cosuccia l'ha imparata nel tempo, ecco, poi allora mi dica, questa famosa pubblicazione, ci sarà la pubblicazione dei redditi online? La pubblicazione dei redditi? Sì, certo, è un emendamento che ho presentato quest'oggi. E appunto, no, voi deve sapere che i senatori già la presentiamo come giusto che sia. Sì. E come sarebbe giusto anche per tutti quelli che lavorano in enti con i finanziamenti pubblici. Cioè, se lei lavora in una radio che prende i finanziamenti, anche lei deve mettere i suoi redditi e saremmo pari. Penso di dire una cosa giusta. Ma adesso voglio dire, dipende, cioè non è mica... Dipende? Perché dipende? Per me lei può pubblicare anche i redditi miei e dei miei parenti, non è questo. No, io pubblico i miei perché la legge me lo impone, certo. E sono ben felice di farlo, naturalmente. Beh, quello è giusto, lei ha un incarico pubblico, ci mancherebbe altro. E lei, sì, ma anche lei, ove mai la sua radio fosse finanziata, non lo so onestamente, ma se fosse finanziata anche lei dovrebbe fare la stessa cosa come lei, sarebbe giusto, perché capisco che non ha. Ma comunque in questo caso quelli di tutti i cittadini saranno pubblicati online, non solo quelli che prendono finanziamenti pubblici o che sono pubblici. Intanto cominciamo da quelli che prendono, ed io lo faccio e sono molto contento di farlo, perché è giusto che sia così. D'accordo, ma io voglio capire se questo emendamento riguarda tutti i cittadini o solamente quelli di enti pubblici. Che emendamento parla lei? Quello che mi ha detto che lei... Quello è un emendamento complesso che riguarda almeno 6-7 punti: il contributo di solidarietà, il taglio, la riduzione del taglio agli enti locali, le questioni che riguardano l'evasione fiscale, i consigli tributari, le questioni delle agevolazioni alle cooperative, le società di comodo. Una cosa complicatissima. Le sto dicendo che il suo mestiere, guardi, mi ascolti, lei deve cominciare a studiare nella vita prima di parlare, perché a parlare no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no non le voglio chiedere nel dettaglio la manovra economica, se no avrei studiato. Attenzione, no, dobbiamo distinguere le cose. Mi ha detto, però adesso mi ascolti, sì. Mi faccia una domanda, una sola. Una sei sola. In grado di farmela così, una io sola. Che devo lavorare. Una mi sola. Creda. Una non sola. Servizio della cittadinanza italiana. Al servizio, sempre al servizio della cittadinanza italiana. Quello... Sempre, adesso sì. Adesso sì. Visto che è vero di non ironizzare, per favore, quando parliamo della cittadinanza italiana. No, perché veda di non ironizzare, impari anche l'educazione. Andiamo sì, avanti. Sì, io mi permette. Presto, mi dica sta domanda. Mi permette di essere ironico ogni tanto, oppure l'ironia non ah, è consentita? Ma pure io potrei fare ironia su di lei. E fare la faccia! Sarebbe un gioco da ragazzi. Ma la faccia! Mi dica la domanda. La faccia. Allora, è vero o no? È vero o no che lei nel 2008 si dimise da sindaco per potersi ricandidare al Senato? Come è vero o no? Certamente sì. Certamente lo fece apposta. No, sono tutti atti pubblici. Ce lo fece apposta. No, perché la legge lo impone e l'ho fatto. L'ha fatto mi apposta. Mi sono dimesso e poi si è ricandidato. Mi sono ricandidato e la cittadinanza mi ha rivolto. Cioè, lei ha fatto lei ha qualche cosa in contrario. No, lei ha fatto come si suol dire in romano una paraculata. No, la paraculata le fa lei. Ma no, si ma rivolga a me, non ci conosce, si rivolga con educazione. No, ma non so che sia ste paraculate, ma non quelle è... le fa lei. Ma no, ma le paraculate non è un termine. Non deve dire parolacce. Ma non sono parolacce. Faccia la persona educata. Ma non è una parolaccia. Non è una parolaccia, senatore. Non so che sia paraculata, è una cosa che non si addice ad un dialogo tra persone che manco si conoscono. Ma non è vero, ma non è vero, è una cosa su cui si può tranquillamente che le paraculate le vado a dire. Cioè una furbata. Parli delle cose semplici. Una furbata. Adesso però grazie di cuore. È stato veramente gentile, io rispondo una furbata. E quando vorrà venire a studiare anche a scuola serale, come dopo lotta. Scuola sono pronto. Come a trovare ci dia l'ultima notizia sulla manovra. Adesso grazie. È stato l'ultima notizia. Arrivederci. Una furbata. Una furbata, paraculata uguale furbata, paraculata uguale furbata. Ora pensavo che parlasse della manovra, no? Il bestia chiacchi del 2008. Telefono è rimasto acceso, Parenzo? Si sente nulla, Parenzo? Spenga il cellulare, senatore! Senatore Azzolini, spenga il cellulare! Spenga il cellulare che sentiamo tutti gli improperi che ci sta mandando! No, magari si sentissero, non si sentono! Spenga il cellulare, Azzolini! Azzolini! È un caso di intercettazione anomala, perché poi magari ci denunciano per intercettazione, capito? Vabbè, traffico, tanto non si sente niente. Come lotta il senatore Azzolini, come mamma lotta! Mamma mia! Ha abbassato. Che stava dicendo nel frattempo? No, niente, non si sentiva. È un grande lottatore, grande lottatore comunque. No, fortissimo, una bella sorpresa. Beh, un grande lottatore perché... Senatore Belisario, beh... Ma io devo dire che sono sorpreso, perché il senatore Azzolini è un istrione, un simpaticone, evidentemente un po' nervoso per la manovra. Perché l'hanno scritta e l'hanno riscritta, l'hanno strappata e l'hanno rifatta nel giro di poche ore ogni giorno, quindi immagini come era un po' nervoso, però che vuole fare? Lo capisco. Se la sua maggioranza gli ha presentato più della metà degli emendamenti, 700 su 1300, avrà dei problemi. Sì, ma poi noi vogliamo chiedere qualcosa che si riferiva al suo percorso, come dire, no? Da sindaco, poi dimissionario per diventare. Guardi, quando si sta con voi, innanzitutto è gradevole perché anche noi stacchiamo un attimo la spina. Sì. E poi, viva Dio, dobbiamo anche saper sorridere su noi stessi. Succedono sempre delle cose, poi il senatore Azzolini in diretta che ci insulta, andate a ripetizione, bellissimo. Vi diamo le do ripetizioni, bellissimo. Che poi veramente uno avrebbe bisogno di ripetizioni sulla finanziaria, certo poi diventa matto sì. Dopo due secondi, per carità, va benissimo, dobbiamo tutti... Se c'è abitudine all'impostazione, certamente... Non ai numeri, ma all'impostazione, poi è meno difficile di come. Ma no, ma voglio dire, va benissimo. È che uno si mette lì sullo scranno da esperto e ci dice: voi non sapete niente, eccetera, dovete imparare. È un mito, comunque, è un sanguigno. Il no, senatore. Bravissimo, anche radiofonicamente. È un uomo straordinario, forse ogni tanto va al di sopra delle righe, però. È un simpatico. No, ma simpatico per carità. Poi se andate a vedere su YouTube delle cose da sindaco di Molfetta. L'ho già già visto. È battagliero, combatte come un leone. Combatte io però un leone. Non voglio fare la parte di chi si intrattiene con voi e non lavora, perché sennò passo. Vada a lavorare. Non si preoccupa. No, per carità. Arrivederci. Grazie a voi. Arrivederci. Arrivederci, Belisario. A lavorare, Belisario. Bene. Va bene. Va bene, andate a lavorare. Poi che dovrà stiamo fare? Che dovrà fare il signor Belisario a questo? Presentare gli emendamenti? No, per carità, va bene. Contro emendamenti? No, perché ridi? No, ma sto ridendo, per carità, adesso non bisogna sempre. Io non so, io in altri paesi esistono gli emendamenti, questo vorrei dire, esistono. No, ad esempio l'Inghilterra, l'Inghilterra uno splendida ha questa tradizione, quella finanziaria si approccia, sì. Addirittura un rito di una valigetta che arriva, si apre. Poi questo, in questo caso non è la finanziaria, è la manovra là, questo maxi emendamento. Sì, no, ma la manovra in Inghilterra, ad esempio, è molto più semplice, arriva questo, il primo ministro, presenta la manovra. Non è che ci sono quegli altri che fa barricata, sì, ma no, il governo, maggioranza. Arrivederci tutti a casa, eccetera. Ma doveva essere così anche quando è stato presentato all'inizio di agosto, no? Questo responsabilità, tutti insieme. Uno tutti arriva, il governo ha già deciso, il governo ha già deciso, non ci si ripensa, questo è il pacchetto di norme, arrivederci, grazie. Decreto così. Il primo a impallinare sta manovra è stato Berlusconi, che la cambieremo in Parlamento. Appunto. Questo bisogna ricordarlo. Vabbè, che vuoi fare? È così. Comunque, un grande lottatore. Il senatore Azzolini è un grande lottatore. Dunque, la notizia del giorno è che sta arrivando alla 7 il senatore Gasparri. Beh, adesso, questo è un. Questo forse meriterebbe per le agenzie, anche per i mercati che ancora a New York non hanno chiuso la borsa, meriterebbe un po' di riflessione, che tra poco Gasparri sarà alla 7. Sarà alla 7, questa è una notizia molto importante, fondamentale. Le grandi inchieste di Parenzo, questa è una notizia. Che, c'è anche una cosa che avevo ritagliato oggi, perché altrimenti il paese è in subbuglio se non si dà questa notizia. Sentiamo. Che riguarda un intervento fondamentale nella manovra da parte di un, eccolo qua, sì, una bella un'intervista, sì, sulla manovra, sempre su questo maxi emendamento. Pippo Gianni del PID avverte gli alleati, questo è il titolo di un giornale. Pippo Gianni deputato, che è stato nostro ospite, ti ricordi, no? Quello del PID, cioè il partito di Romano. Una musichetta, ti suggerisco una colonna sonora che i tuoi ragazzi sono bravissimi a trovare, ma Pippo non lo, quando ricordi la prossima volta, questa, no? È buona, questa è buona. Ma Pippo non lo sa. Attenti, il nostro voto a favore non è scontato, avverte gli alleati Pippo Gianni. Però adesso noi sorridiamo, però ogni voto è indispensabile. Perché anche il voto di Pippo Gianni è fondamentale, per carità. E quindi bisogna fare i conti anche con Pippo Gianni. Assolutamente. Paolo, the democracy, democracy. Ah sì, democracy, eh. Chi è che parla? Scusa, da lontano. Democracy. Sì. United States of America is democracy. Ah, questo è il professor Lutwak. Buonasera, professor Lutwak. Buonasera. Ma anche ci sono in America i vari Pippo Gianni and Company? Noi non conosce Pippo Gianni, noi conosce in democracy la forza delle bombe quando problema, noi fa Iraqi freedom. Voi Agnoletto c'è ancora, signor Agnoletto? Ma perché lei è fissato sempre con il senatore Agnoletto, che non è più senatore? Grande danno per il PIL, Agnoletto, vuole tutto statale. Bisogna privatizzare tutto, anche i cimiteri, privatizzare i carceri. United States, ci sono delle carceri private. Metto Agnoletto, ad esempio, in un carcere privato negli Stati Uniti. No, veramente non è in galera Agnoletto, comunque. Andrebbe messo in galera per quello che dice, distrugge l'economia. C'è ancora il signor Agnoletto. Ma non ci vede, lei è fissato sempre con questo signor Agnoletto, no? Non conta più nulla, per carità, con tutto il rispetto, conta poco. Signore di Rifondazione Comunista, vabbè, comunque. E chiudiamo questo collegamento con il signor Lutwak, andiamo a Paolo da Padova, buonasera. Buonasera, dica. Io volevo intervenire sulla questione dei magistris. O meglio, ho letto, sono rimasto anche abbastanza un po'. Io non sono elettore di Italia dei Valori, o meglio, sicuramente non l'ho votato in quel momento quando è stato eletto deputato europeo. Però, essendo veneto, leggo e vedo. In pratica, adesso dei magistris sparge letame su tutta Italia dei Valori, e questo è uno scilipote di sinistra, e vabbè, prenda la strada che vuole e vada dove vuole. Ma il fatto è che lui è stato eletto nel Veneto, o meglio nella seconda circoscrizione, e quindi i voti li ha presi, o meglio, ne ha presi certo da tante parti, ma è qui, e volevo che voi approfondiste un argomento. Lui, essendo diventato sindaco, ma De Magistris non è che è stato eletto nel Veneto, De Magistris era presente in... Certo, però alla fine ha scelto questo collegio. Sì, sì, quindi, vabbè, si è dimesso... La circoscrizione nord-est, che è vastissima, sì, comprende più regioni. Ma non so, magari era candidato anche in altre circoscrizioni, non lo so. Mi correggo, lui... è comunque deputato europeo per il collegio nord-est. Ma non lo so, per darsi che era presente anche in altre circoscrizioni dei magistri. No, no, ma alla fine le altre ha rinunciato. Ed è vabbè, quello perché nel poi alla fine tecnicalità. È una tecnicalità quello. Comunque, qual è il problema, Paolo? Non ho capito qual è il problema. In questo momento, no, non permetta un attimo. In questo momento lui rappresenta il nord-est. Ma non solo, lo rappresenta ancora dopo che sono passati più di due mesi delle elezioni, quando dovrebbe... c'è una regola, la regola dice che dopo 30 giorni dall'elezione decade, però così come succede nei parlamenti nazionali, si aspetta, e quindi il suo segretario di partito, emulando la questione di quando hai un problema devi andarti a presentare, lui dovrebbe di corsa essere arrivato a Bruxelles e personalmente portare le dimissioni entro i 30 giorni, in modo che... Guardi, adesso io non lo so a che punto sia, io non lo so a che punto sia la vicenda delle dimissioni di De Magistris. Io dico io, la vicenda da parlamentare europeo, sono andato a vedere sul sito. Sì. Lui è ancora in questo momento parlamentare europeo. E volevo che voi approfondisse un argomento molto semplice. Cioè? Non è che anche lui è come tutto degli altri, di tanti altri, che aspetta che arrivi metà novembre quando scade il vitalizio di 2 anni e mezzo? Di cosa? Da parlamentare europeo? Bravo, dice lei. Tutto là. Non lo so, guardi, non mi ricordo a che punto sia la cosa. Lui aveva effettivamente annunciato subito le dimissioni, ci sono probabilmente dei passaggi tecnici. È un tema da approfondire. Per carità. Passaggi tecnici. La borsa, grazie. Tanti galli che cantano, troppe galline rispondono, e se i piccioni spariscono, tutte le papere piangono. Che fai, Valenzo? Sto fumandomi una sigaretta con una collega della 7. Sì. Lei ha appena finito di fare il telegiornale, è appena entrato Gasparri, quindi mentre c'era la... No, è la zanzara. Puoi salutare in diretta il suo sociale? Chi è? Aspetta, una fan, ti passo la collega, che devi scoprire dalla voce. Dimmi, non lo so, è difficile. Conosci anche il marito? Conosco anche il marito. Anche il marito, adesso te la passo, giallo. Ecco, questi ultimi minuti, dedichiamolo a questo. Ti passo la collega, autorevole collega, da tantissimi anni segue la politica, segue il palazzo, segue la faccio. Ma perché, perché mi devi mettere in imbarazzo? Che non conosco le persone poi. Sono negato con i nomi. Sono una grande ascoltatrice della zanza. No, perché sono in difficoltà con i nomi. Comunque passa, me la passa. No, ma stai te la passo subito. Pronto? Buonasera. Buonasera, sono una vostra grande fan. La sento sempre uscendo dal lavoro, nel tragitto fino a casa. Adesso io, secondo Parenzo... Non perdo una puntata. Grazie. Secondo Parenzo dovrei riconoscere la voce. No, ma non pretendo assolutamente. Mi ha detto una collega della 7, conduce intanto anche telegiornale, è molto complicato. No, non conduco, sono sempre... Dietro le quinte. Mi si sente, non mi si vede. Dietro le quinte, a condurre le operazioni dietro le quinte. Certo. Va bene, un abbraccio, grazie. Grazie, non so adesso il nome. Adesso le ripasso Parenzo. Sì, che sta facendo? Sta fumando le solite cose, no? Sì, è qui che fuma una sigaretta insieme. Una cosa di una volgarità inaudita. Va bene, grazie. Prego. Pronto? Ah, un signore dice: Cruciani e Parenzo dovreste trovarli tutti come Azzolini che vi zittisce. Se avete coraggio, leggete per radio questo sms. Qual è il problema? Ma come si chiama la signora / signorina / ragazza? No, signora, è signora. Signora, è signora. Vabbè, comunque adesso insomma, signora, diciamo, il marito è un volto noto. Sì. Del TG3. Volto noto del TG3. Vabbè, vuoi comprare una vocale? Alla gente non gliene frega niente, diciamo la verità. Fra poco ti presento un altro giornalista che è stato al centro di una polemica molto forte in queste ore. Hai letto di quella televisione privata di Lucca. Ah, come no, certo, certo. Lucca, con il conduttore, sì, che ha detto certe cose sugli omosessuali, sui trans, eccetera, eccetera. Tra poco te lo presento. Prima un ascoltatore, però. Cioè, ce l'abbiamo al telefono, no? Beh, certo. Ma la Zanzara, ma veramente fai un programma? Davvero? Bisogna... Ma finisce. Bravo. No, ma sei Massimo, bravo, da Bergamo. Dirtelo. Buonasera, Massimo. Beh, perché ridere così? Massimo. Buonasera. Dica. Ho una domanda. A che serve rendere pubblici i redditi della gente? Non lo so. Aiutiamo i ladri a trovare le case dei ricchi? Secondo me non serve a nulla, infatti, però la mia impressione è questa. Cioè, detto questo, cioè, chi ha i dati, se non sa cosa farsene, che vada a casa, come dice il buon Parenzo, o no? Lei ha fatto una dotta citazione. Lei ha ragione, chi deve avere i dati per combattere l'evasione fiscale già ce li ha. Dovrebbe aiutare in teoria la delazione. C'è, cioè, uno dice, quello là che c'ha la Ferrari, vediamo un po' quanto guadagna. 100.000. Ma mi scandalizza Berlusconi cosa aveva sostenuto quando Visco propose misure molto inferiori. Te lo dico io cosa aveva sostenuto. Aveva sostenuto che era una vergogna, lo stato di polizia. Si è convertito al verbo di Visco? Beh, benissimo. No, non lo so se si è convertito al verbo di Visco, però certamente ne aveva detto di tutti i colori. Aveva detto aveva detto delle cose molto pesanti, che erano stato di polizia, eccetera, eccetera. Comunque, andiamo a sentire quello che ha detto un giornalista, anche psicologo, che si chiama Daniele Vanni, l'altro giorno alla televisione che si chiama Di Lucca. Voglio chiudere con due concorsi di bellezza, ma di altro tipo, dei quali mi rifiuto di passare le immagini anche se ne siamo in possesso. Infatti, se era ingiusto vessare e schernire una volta o tenere addirittura chiusi in casa i diversi, anche gli omosessuali, a me sembra eccessivo il gay pride oppure farci sopra dei concorsi di bellezza. Gli uomini sessuali sono gente tali e quali come noi. Signor Vanni, buonasera. Eccoci qua. Eccoci. Come andiamo? Andiamo molto male. La vogliono cacciare per quello che ha detto? No, mi hanno già cacciato. Ah, licenziato? Sì. Beh, questo mi pare eccessivo, Parenzo. Ma io... non so, sono distrutto, affranto, perché ho dato la vita per la televisione, ma non solo per quello, ma... No, questo mi dispiace, lei è molto, mi sembra molto giù, io sì, volevo prenderla anche un po' per scherzo questa vicenda. No, cioè... no, questo lei non è uno scherzo, a 58 anni io sono una persona distrutta che ho dato la vita per la televisione, ma sono distrutto anche dal fatto che mi si è data di me un'immagine completamente sbagliata. Guardi, io ho detto, ha fatto un frammento lì, io... Ho detto che era sbagliatissimo tenere diversi gli handicappati in casa chiusi perché nelle strade deridevano, ma che all'opposto mi sembrava stonata una certa ostentazione, ma io non sono assolutamente omofobo perché, anzi, guardi, le dico, nel prossimo DSM-4 il Diagnostic Statistic Manual degli psicologi entrerà l'omofobia come un disturbo psicologico ed è stata tolta l'omosessualità, quindi... Si è trattato di uno scivolone di stile, una battuta goliardica per parare il fatto. Lei però mandiamola all'integrale, perché effettivamente guardi, non mi faccia soffrire. È per far capire Vanni, perché giustamente glielo dico io, ho detto questa battuta infelice perché non avevo le immagini, perché lei ha lavorato a Radio Radicale, ci ho lavorato anch'io da giovane e partivo col microfonino e con un registratore. Oggi ho 58 anni, in una TV locale che costa più di 1000 euro al giorno, siamo agli stessi sistemi, quindi io non avevo l'immagine assolutamente e ho fatto questa battuta infelice per coprire il fatto che dovevo parlare così all'impronta e non sono neanche talmente bello. Cioè lei dice io non è vero che non ho voluto mandare le immagini. Ma scherza, dei trans. Ho cercato tutto il giorno le immagini, solo che trovavo solo le foto con marcate, no? Che sa che non si possono passare. Ecco. Però ha dato anche dei giudizi dicendo, no, dicendo delle cose sulla presenza di questo concorso, Miss Trans, ma guardi, io ci sono problemi di ordine pubblico, diventa un problema di ordine pubblico. No, io ho detto una cosa diversa, ho detto che l'ostentazione, ora siamo vicini a Montecatini e da Salso Maggiore Miss Italia è venuta a Montecatini, io sono contrario anche a Miss Italia, non è una questione di omofobia, è questione di ostentazione. Per quanto riguarda i problemi di ordine pubblico non c'entrano per niente gli omosessuali, è che a Torre del Lago si è formata una situazione esplosiva e oggi parlavo proprio con la collega che si occupa della nera, guardi, sto ricevendo un mucchio di solidarietà perché ieri sera sono andato a Torre del Lago nella comunità gay trans, ho chiesto scusa, ci siamo chiariti e dopo 5 minuti ci siamo abbracciati e non c'era più niente. Stamani sono tornato lì all'alba, sì. Ho portato i fiori a Regina del Piscilla che è a capo della comunità, sì. Gay e trans della Versilia, avevo anche stabilito di fare una trasmissione settimanale con lei per parlare dei problemi. Si figuri se io sono omofobico, quindi... No, ma io non ho dato nessun tipo di giudizio, io sono di fronte alla notizia che ha dato adesso, che è stato licenziato, lo dico senza nessuna ironia, mi dispiace davvero perché di fronte... Ma guardi Parenzo, tra l'altro... Facciamo un appello al suo editore, lei ha chiesto scusa, ha detto una frottata. Le voglio dire che io l'ho particolarmente simpatico e le dico anche da dove viene il suo nome, viene da Porec, una cittadina croata. Porec, vabbè, comunque al di là della cittadina croata, ma al di là di quello... No, però mi scusi un attimo, io posso... lo so che le provoco magari un dolore e la sento anche dalla voce piuttosto, sì, affranto, guardi, sembra quasi che lei stia piangendo da un momento all'altro. Io sono 2 giorni che piango perché sono malato e sono anche stanco di vivere. Malato in che senso, mi scusi? Ho avuto abbastanza malattie gravi, ma questa non importa. Guardi, io sono già stato ostracizzato da Lucca. Quando ero giovane da un onorevole lucchese e la mia colpa era stata quella di aver detto delle idee, di essermi opposto a lui che era il padrone della città, per questo sono venuto a lavorare a Roma e ho dormito tante sere dentro le cabine della stazione Termina puntandomi con i piedi per la paura della gente che sa che c'è, poi quando raggranellavo 2-3 mila lire andavo a dormire nelle pensioncine accanto a Termini. E ho fatto una vita veramente infame da giornalista facendomi tutto da me, ma questa volta vengo buttato sul lastrico, sul marciapiede, per una battuta oltretutto che non mi appartiene. Scusate, ma come lei non era assunto a tempo indeterminato, come l'hanno licenziata per giusta causa? No, non mi hanno neanche comunicato niente. Stamani ho provato a telefonare perché avevo fissato alle 3:30 proprio un'intervista con la comunità gay. Lei che rapporto ha con questa televisione? Che tipo di rapporto? Io ho dato la vita per questo. No, ma ha un rapporto di lavoro di che tipo? A me mi hanno sempre preso così a fattura. Io sono stato assunto poche volte nella vita perché... Sì. Ho lavorato anche per ministri, per sottosegretari. Insomma, lei questa mattina aveva un'intervista fissata e che è successo? E niente, mi hanno detto che ero sospeso per un paio di giorni e ho detto va bene, se io ho fatto un danno è giusto che venga sospeso. E poi? Ora nel tardo pomeriggio ho letto sul nostro sito che chiedevano le mie dimissioni, eccetera eccetera. Guardi, ho ricevuto ora 2 comunicati che mi fanno veramente commuovere, della comunità gay, Gay Lab e TF c'è scritto, in cui dicono guardi, il vero discriminato sei te, perché noi non chiedevamo la testa tua e poi te sei venuto qua e hai chiarito la tua posizione, quindi non c'era nulla da obiettare. Facciamo un appello ai dirigenti di Lucca. Riprendete il collega a caso. C'è stato un chiarimento, cari dirigenti di Lucca City Television, qui leggo un comunicato in cui sostanzialmente mettono nero su bianco le dimissioni o comunque il licenziamento del signor del signor Banni. Cari dirigenti di Luca, io credo che sicuramente il signor Banni ha commesso un errore, perché certo. Ha commesso degli errori. Ha fatto uno scivolone di stile imperdonabile. Io, guardi, sono il volto della televisione di Luca, perché la faccio dal 1987, ma non mi è mai capitato neanche una querela. Ma come le è venuto in mente? A un certo punto, come le è venuto in mente di dire che non ama l'ostentazione, che non manda questi servizi perché non li vuole mandare? Questa qui è una televisione nuova, digitale, e noi l'abbiamo, cioè la proprietà rilevata da 2 o 3 mesi, mi sono trovato dei problemi addirittura insormontabili. Sì, ma come le è venuto in mente di parlare di queste robe qua? Le spiego, ho fatto 42 minuti di telegiornale da solo, lo sa, lei ha ricevuto anche un premio, ora il premio Montale insieme alla parente. Sì, ma voglio capire, al di là di questo, io voglio capire una cosa. Ero stanco e non c'avevo le immagini, ho tirato una balla così dicendo non passo le immagini perché sono contro l'ostentazione, per fare un po' il gradasso, e l'ho pagata veramente cara, ma si tratta di una battuta goliardica. Cari dirigenti di Luca City Television, allora Parenzo, lo possiamo dire, perché insomma signor Banni mi sembra sincero dal collega della 7 Andrea Molino, che è al mio fianco, te lo passo così fai commentare a un autorevole collega che conosce la televisione anche da più tempo, questo fatto clamoroso. Ti passo Molino. Sì, va bene. Signor Molino? Pronto? Buonasera, signor Molino. Buonasera. Allora, qui abbiamo un caso che sicuramente tu hai visto in giornata, che riguarda Daniele Vanni, giornalista, psicologo, era sul sito di Repubblica, che peraltro ha fatto scoppiare questo caso, il quale durante una trasmissione ha detto delle cose che sono state classificate come omofobiche, no? L'avrei letto sicuramente anche tu. Mi rifiuto di passare le immagini di questo del concorso di Miss Trans Italia, pur avendole, così come abbiamo fatto per Mister Gay in Italia, perché mi sembra eccessivo, ostentazione, eccetera eccetera. Naturalmente è stato licenziato da questa emittente. Giusto o sbagliato licenziarlo? Beh, oddio, non è così, la domanda è molto secca, però effettivamente, insomma, se uno va in televisione dovrebbe essere un po' più attento a quello che dice. Ma lui ha chiesto scusa, si è chiarito con le associazioni, eccetera eccetera, ha detto allora è un po' eccessivo la reazione del licenziamento, magari non aspettavano altro. Non lo so, può darsi. Va bene, grazie, abbiamo il traffico, torniamo subito. Ultimo appello, direi, prima della volata finale degli ascoltatori con Daniele Vanni, che tra l'altro è un grande ascoltatore della Zanzara, Parenzo. Giornalista, psicologo. Ha detto una sciocchezza. Da cosa deriva Zanzara? No, mi dica tutto. Guardi che Zenzem è una voce araba che sta a significare il ronzio fatto dall'insetto. Ecco, sapevo che è araba Zanzara, si capisce che è araba, il cruciale è araba, dirò quella. Ma io non sono arabo, boss, sembra un califfo. No, sono di Roma. È venuto da Isito che ti legniamo, è venuto a Milano a portare tutti gli immigrati Zanzara, ha ragione quello lì che ha parlato, bravo quello lì della Lega. Non è della Lega, del signor Banni, non è della Lega. È della Lega, Banni. Lo sento, non è cruciale. Cruciale dove poi di merda, Croce, senti che roba, Croce suola male. Ma strano, scusi, che Bossi in questi 10 secondi non abbia detto stronzo oppure scorreggio oppure non abbia fatto pernacchie. Dico solo che stiamo liberando la Padania. Sì, sta arrivando il federalismo fiscale, sta arrivando il popolo del partito IVA e con noi. Vabbè, la Lega. Senti, scusi, che ne pensa del sindaco di Roma Alemanno? Alemagna, non Alemagna, Romagna tutto, Alemagna, si voleva vendere anche il Colosseo, i gladiatori lì davanti, tutti i gladiatori, Roma e la Verona, la Lega non perdona, ricorda, però Crociani, Roma, ci sarebbe un problema che però voglio porre alla radio della signora Barcegaglia, che è una mia amica ancora del nord. C'è un ragazzo bravo di 30 ancora anni che si chiama, stai zitto che filegnamo, vai a lavorare a Roma, vai via, no. Anziché rubare il posto ai ragazzi come Renzo Bossi, gente del nord, torna a Roma, torna per lavorare lì a Roma, giù al sud, a Roma. Vabbè, allora... alla Mec, vai a lavorare al Cairo, vai, stai benissimo tu al Cairo, Crociani al Cairo lì, vabbè. Tutte le donne al Cairo, stai bene lì, vabbè. Giù, non toccare le nostre donne del nord, vabbè. Vai giù, vabbè, vai io la sì, vai, torna, vai al Cairo, vai via, radio al Cairo, canta ai Zanzara, parti al Cairo, vai, vabbè. Vediamo se non ti taglio la testa, o il tuo umorismo lì, prova a dire male del mullah lì, vediamo cosa succede, vabbè, allora, vai lì, che vai vuole lì, dire la signora Marcegaglia, che voleva dire? Signora Marcegaglia deve dirci un problema gravissimo, i posti di lavoro al nord, sì. E allora c'è un ragazzo che adesso è momentaneamente occupato in regione, però avrebbe bisogno di andare a fare il dirigente alla ditta della signora Marcegaglia. Ma chi è sto dirigente? Si chiama Renzo. Ma non è dirigente, è deputato regionale. Ho capito, dovrebbe fare il dirigente alla dall'azienda alla Marcegaglia a tempo indeterminato, se possibile. Al nord, via, per tutti i lavoratori devono essere del nord. Ho capito, vabbè. Grazie, ecco, grazie. Stronzo. No, stronzo, perché stronzo? Che ho detto? Perché devi andare a lavorare al Cairo, devi andare. Vai da Mubarak. Ma non era, Alfano, non era Alfano quello. Vai da Mubarak a lavorare, vai. Vabbè. Torna a casa, torna a Catua, voi diciamo Catua. Va bene, a Catua. Va bene, grazie a Bossi. E grazie anche a Daniele Vanni, facciamo Parenzo un appello. Sì, no, mi auguro no, mi sembra che, voglio dire, ha chiesto scusa, le frasi erano sì, certamente, certamente sbagliate. In diretta l'editore, a questo vabbè, punto. Adesso ormai la trasmissione sta finendo, magari nei prossimi giorni lo faremo. Caro Vanni, cosa vuole che le dica? Mi ha fatto fare il primo sorriso da due giorni. Ma non si deprima però più di tanto. Ma sai, io ho fatto... Ce l'ha del denaro per campare, ce l'ha? Io non ho mai guadagnato denaro, faccio lo psicologo, non sono abilitato, ma ho 2 o 3 persone che seguo e lo faccio gratuitamente perché non posso prendere soldi. Cioè, l'hanno messa in mezzo alla strada? Mi dica la verità. Sì, sicuramente. Io vedo, ho fatto il 68, sono stato consigliere comunale, sono stato anche segretario provinciale di un grande partito di sinistra e tra i più giovani d'Italia. Ma è vero che lei non ama le manifestazioni gay, è vero? Guardi, no, tutto deriva dal fatto che il mio presidente, io lavoravo agli invalidi civili a Roma, era addetto stampa nazionale, mi mandò a seguire il Gay Pride, il primo che c'è stato a Roma, e ne ho avuto un'impressione, ma tempo fa ero a Londra, ho avuto la stessa impressione, cioè l'ostentazione così. Non le piace. Non mi piace, ma al di là di quello io... Beh, a lei ha detto quello che pensa in un momento in cui non sapeva... Ecco, mi imbatto per la difesa dell'ambiente da sempre, sono un ecologista, fondatore dei giornalisti ecologisti nel 90. Cioè non è che lei pensa che i gay sono malati, no? No, ma guardi... Oppure sono diversi, non è che pensa che sono diversi? No, guardi, le dico che è diverso molto probabilmente chi è omofobico, perché l'omofobia è correlata al timore di essere considerati omosessuali. Va bene Vanni, io spero che le cose si risolvano. Caro Parenzo, andiamo avanti. Grazie a Daniele Vanni, giornalista e psicologo. La vedo molto, l'ho sentita molto molto battuto. Mi dispiace, davvero, sinceramente mi dispiace. Ma lei si riprenderà sicuramente. Gennaro da Napoli, buonasera. Dica. Dica, no, niente, io volevo intervenire sulle valutazioni su De Magistris. Ma guardi, oggettivamente De Magistris piacerebbe. Vabbè, che piaccia alle donne, adesso se l'è detto pure da solo, lo diceva anche la signora Mussolini, no? La signora Mussolini. Mi capita negli uffici a volte, io non l'ho votato, sono dei pochi che dice di non averlo votato, quindi ho titolo per dirlo. Le posso dire che mi capita negli uffici di vedere la foto di De Magistris, se dico scusi, ma lei la sostiene e dice no, è un bell'uomo. Mi piace tenerlo lì. Ma perché. Non esageriamo adesso. No, giuro, è veramente così. Tanto è vero che sono anche abbastanza invidioso, a dire la verità. Lei è invidioso di De Magistris perché piace alle donne? No, piacere dopo. Addirittura, che, qual è il paragone? Guarda, questo è un dato reale. Poi, qual è il diciamo, paragone che fece la Mussolini, Parenzo? Ti ricordi che era Banderas addirittura? Con un atto sì, Ursula dice c'era Banderas, mentre il candidato del PDL, sì, non mi ricordo che Lettieri, paragonato, non mi ricordo da chi, alla Mussolini. Poi le critiche che lui fa sulle modalità di selezione dell'Italia dei Valori, secondo me, sono vere, ma in realtà forse l'errore è stato scegliere lui, perché ogni politico che si rispetti deve circondarsi di mediocri e lui non è un mediocre. Oltretutto è anche alfabetizzato e quindi chiaramente è stato un errore di chi lo ha candidato aver messo lì una persona, diciamo, a prescindere dalle opinioni che esprime e da come vuol tentare di risolvere i problemi di Napoli, che secondo me è assolutamente il d'Italia se non impossibile, ma il problema è questo, cioè. A volte mi viene il dubbio, se lui non dica, se lui dica di non volere gli inceneritori sperando che altri li facciano. Però, insomma, a questo punto saremmo sulla genialità assoluta, e che è anche possibile, una volta tanto una cosa buona a Napoli può anche succedere. Per il momento io sono profondamente scettico. Grazie. Davide, provincia di Ravenna, buonasera, veloce, Davide, non c'è più. Gaspare, Monaco di Baviera, addirittura. Gaspare, buonasera. Buonasera. Buonasera, dopo tanto tempo, insomma, sono un vostro ascoltatore da tanto tempo e sono riuscito a parlare con voi. Via web. È un grande onore per me. Via web, immagino, no? Via web, immagino, da Monaco di Baviera, o sbaglio? No, tramite Sky con la radio, no? Tramite Sky con la radio, beh, certo. Anche sì, con la radio, no? Con la radio tramite satellite. Vabbè, insomma. Io volevo dire che lei ha domandato una volta oggi in trasmissione se c'erano gli emendamenti, no, alle finanziarie all'estero. Ci sono, solo che gli emendamenti vengono fatti dal governo e poi quando vanno in Parlamento si vota sì o no, è finita là. Non ci sono tutto questo ambaradam che c'è in Italia, cioè questo assalto. Sì, ma l'ambaradam è sempre frutto della confusione. Quando c'è confusione, quando ci sono divisioni, si presentano emendamenti e contro emendamenti. Ma l'unico motivo è questo. Comunque io volevo dire che qua in Germania, quando io sono 44 anni che vivo in Germania, sono di Napoli, sono napoletano, e sono 44 e sto in Germania, quando mi domandano a me come fate voi a votare in Italia, cioè a voi, a me, cioè in Italia, come fate a votare questa classe politica? Io non riesco a capire perché non ci vivo in Italia, però sentendo anche le trasmissioni, e c'è tutta anche lei, no, che giustifica certi comportamenti. Io non giustifico che niente. Uno deve vivere in Italia, perché io dico, deve vivere in Italia per capire, e l'Italia è come un manicomio, cioè i manicomi sono i pazzi, no? Sì. Quando uno normale va dal manicomio, chi è il pazzo? È quel normale. Allora, quel normale che vede che certi comportamenti pensa che quella non sono normali. Invece quelli dentro dicono che no, noi siamo normali, sei tu che sei pazzo che consideri che noi... Non so se ho reso l'idea. Beh, diciamo che... Un po' complicato. Ma c'è anche anche la musichetta per chiudere. E allora ci sentiamo, caro Parenzo, domani alla stessa ora, se non sbaglio, no? Perché domani è venerdì 18:30. La Zanzara, viva il senatore Azzolini! Abbracciamolo forte. Sempre. Viva il senatore Azzolini. A domani. Crociani vaffanculo, non saranno sui crociani. Attenzione al matto! Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare.